Ci tengo i ragazzi per un viaggio senza eguali. Con Euro Ludica 24 andiamo nei campionati. Dall'Italia all'Europa in un balzo e senza rete. Con la palla che le va la testa tra le stelle. Euro Ludica è la radio che fa gol con la musica. Euro Ludica è il calcio giocato in chiave ludica. Fallo, noi parliamo d'altro ancora. Dai piatti tipici ai ritmi che l'anima vola. E se il calcio è poesia, noi siamo i suoi poeti. Con Rete Radio i campioni siete voi. Euroludica, Euroludica è la radio che fa con la musica. E quando il fischio suona il gioco si fa duro. Noi cambiamo gioco con uno stile duro. Dalle donne alle leggende, veniti alle verità. Euroludica, 24 la partita è già qua. Euroludica, Euroludica è la radio che fa gioco la musica. Kendorfen, Skarken, Trunken, Swagen, Kartoffen, a tutti quanti benvenuti qua su runtimeradio.it, dove ci godremo questo ottavo di finale fra Italia e Confederazione Elvetica. Con me Walter Sbano. Buonasera ragazzi, non so se mi sentite. No, non ti sento. Infatti vedo. Siamo spenti? No. Marco sì, cioè Marco funziona, tu non funzioni. Mi sento infunzionante. Prova un po' il cavo sotto, si è attaccato bene. Prima di tutto capire, forse è questo. Ah no, aspetta. Parla. Ciao, sono Walter Sbano, vi saluto tanto. Forse non mi riconoscerete perché la mia voce è leggermente cambiata a causa di un colpo che ho preso prima. No, sì, adesso sì, oh che bello. Oh, sono tornato, che poi non capisco. Hai spippiolato dalla settimana scorsa, ragazzi. Sì, ho spippiolato. Ragazzi, ho appena scoperto la tattica della nazionale in chiave passare il turno. Ho appena visto l'arma segreta, cioè era Materazzi. Qua. Cioè l'oggetto puntiamo, del campo puntiamo alla capocciata. Il morto no. Ah, no. Le capocciate. Puntiamo alla capocciata, okay. Sì. Intanto sono le squadre nel tunnel, naturalmente. Della droga, delle calcio scommesse soprattutto. Ho visto anche la faccia di Buffon, che era quella di cui, cavolo, avevo scommesso che uscivamo 2-0 con la Croazia. Però posso rifarmi stasera. Esatto. Devo rifarmi stasera. Ho scommesso la macchina sulla vittoria 3-0 della Svizzera. Ma la macchina di Spalletti. Intanto salutiamo Mister Zero, che è in purtroppo sta lavorando. Poveraccio. Ma almeno lo pagano. Non ci sono più i bei vecchi tempi in cui quando giocava l'Italia si fermava tutto. Il mondo, vero? Purtroppo la gente. Succedeva ma quando c'erano i mondiali. Shuren che ci ha detto che questa volta ci avrebbe ascoltato. Mentre che gioca Assassin's Creed. Fa bene, lo farei anche io. Meglio di niente. Allora, guardi, iniziamo subito con le cose serie. La formazione dell'Italia. La formazione dell'Italia è Buffon, appunto, che scommette che giocherà. Lui è scommesso. Buffon, però, c'è. C'è. Non è gioca. Capo della delegazione. Capo, lui è il capoccia. Poi c'è. Sarebbe una sorta di team manager. Boh, sì, credo di sì. Poi c'è Mastrecchia, Strapponi, Laudati. Sì, Spezzafiletti. Psicofarmaco. Tanti bei giocatori, tante novità. Insomma, anche la nazionale italiana è giovane, ci sono tante promesse. Come il giovane Mazzancolla, il famoso attaccante su cui noi puntiamo tanto. Esatto, Mazzancolla è uno forte. Io ti voglio far sentire una cosa, Gualdi. Dimmi se non ho ragione io. Aspetta. Va pensiero sull'ali dorate. No, mi sembra un plagio. No. No, dai, un po' sì. Cioè, basta mettere degli ottoni e per te va pensiero. Perfetto. Esatto, no, dai, quando no, ci sono gli ottoni è tutto uguale. Quindi l'inno della. Ma pure Erminio? Erminio, infatti, Erminio Ottoni. Erminio Ottoni, quello soprattutto, ricordiamo, insomma, momenti meravigliosi nella storia di archeologia informatica, che ci sono costati settimane di trattative, tra l'altro. Vabbè, è inutile parlarne adesso. No, no, perché infatti, adesso in campo c'è l'Italia. No, l'Italia con Mazzancolla che sta lì pronta a segnare. La formazione della Confederazione Elvetica. Questo, cioè, ci poi perché noi la chiamiamo Svizzera? La chiamiamo Confederazione Elvetica. No, io so solo che sono praticamente una federazione di banchieri, quindi i loro nomi non possono essere rivelati. Ah, sono il gruppo Brinderbrand. Sono, sì, esatto, sono i Rothschild, quindi non si può dire. Hiroshima. Ragazzi, io posso dire una cosa. Io, come no? Io tu puoi dire tutte le cose che ho dici. Ho appena scoperto, anche se forse l'abbiamo detto in chissà quanti altri podcast, sì, dello stand, tra l'altro molto bello, che vorrei comprare uguale, ma non trovo, che stiamo utilizzando per reggere il tablet con cui vediamo la partita, è di marca Boiata. Boiata, esatto. Io l'altro, cinese. Certo, io la vedo meglio da voi. Giapponese, però. La vedo meglio da voi che da me. Questa è una cosa. Che detta così sembra quasi che siamo in due posti diversi, ma è questione di 20 centimetri di differenza. Però la postazione nostra è talmente fantascientifica che abbiamo tanti di quei monitor. Perché io il problema è che se ci avessi avuto due monitor, allora avrei potuto gestire le cose separatamente. Ma avendo un monitor solo, ci sono 50 cristi aperti. Questa è una polemica per la direzione. No, esatto, invece lì, che mi sta proprio diritto, tutto sommato, da una dimensione pure accettabile, vedo. Ecco. Questo cos'è? Il terzo portiere italiano? Volevo dire. Mastrecchia? Mastrecchia, esatto. Mastrecchia, che insomma è un giocatore abbastanza importante. Ragazzi, l'espressione di Donnarumma, vogliono a casa, era proprio quello. Ma secondo me, allora, l'unico che non vuole andare a casa è proprio Donnarumma, perché è pure anche l'unico che sta a fare qualcosa. Esatto. Diciamo così, no, tra l'altro, questa leggevo ieri, adesso non mi sono riaggiornato, che praticamente scendiamo in campo senza difesa, quindi sarà divertente. Sì, perché allora senza difesa immunitaria. Calafiori è squalificato. Sì. Ma gli sarà passato il durello a Calafiori nel frattempo? No, non credo. Ma perché il durello? Perché Per aver passato il turno. Ma tu non hai visto secondo l'immagine? C'era il cazzo duro. Ma beata la fidanzata, probabilmente, era qualcuno. Ma magari quella è nelle condizioni di riposo. Ne sì. Appunto, per quello. E tu pensa quando è allegro. Oppure non fa differenza. Anche, quello è priapismo, però. Cioè, tu immagini. Non è comodo. Ma tu immagina una donna, se vede l'uomo che si spoglia, dice, oh, questo. Se ce l'ha così quando sta normale, figurate quando è invece uguale. Beh. È una brutta cosa. Dipende. Esatto, perché un grosso pisello moscio non è la stessa cosa. È un moscio pisello grosso, tra l'altro. Non serve poi a niente, insomma. Esatto. Lo puoi usare come sciarpa, però. Però dicono che salutiamo Andrea Trevisan, quando parliamo di sciarpe dobbiamo sempre salutare. Gli scienziati dicono che è inversamente proporzionale, perché cioè la cavernosità e l'espansibilità è inversamente proporzionale alla grandezza, quindi più sono grandi e meno si espandono. Ah, quindi, certo, c'è. C'è questa spirito di scienze che potrebbe anche dirci. Che corrisponde anche al teorema di Pitagora, poi. Ma non come, non senza nano, però. È diverso. Beh, questo lo dovresti dire a Fabrizio André, che invece sostiene. Comunque, la formazione è elvetica, Marco. Ah, devi dire Spano. Io è la formazione. Ah, che hai detto che erano banchieri di Brindenburg, quindi non si potevano nominare. Hai ragione. E allora non potrebbero manco giocare. No, hanno, infatti, hanno il cappuccio. Quindi, il telecronista ufficiale della Rai, che tra l'altro, io voglio fare una polemica. Cioè, nel senso, a parte, vabbè, Zaccagni non gioca, nonostante aver salvato l'Italia. No? E vabbè, quello ci può sta. Che hanno voluto insistere tutta la serata. Che il gol era merito di Calafiori, che ha fatto il passaggio, non di Zaccagni che ha fatto il tiro. Cioè, è una cosa veramente meravigliosa. E invece ricordiamo Caressa, che a momenti ci rimane. Insomma, sì, Caressa si stava strozzando. Si stava rimanendo brutto. E mi sarebbe dispiaciuto, perché tutto sommato a me Caressa esagera un pochino a volte, però è forte. Insomma, d'altronde ci siamo affezionati a Caressa come siamo affezionati a Nando Martellini. Io Martellini non l'ho vissuto più perché tanto, non te lo ricordi, giusto? No, molto poco, però qualcosa. Però vabbè, era molto, molto composto. Noi abbiamo passato, ragazzi, nel bene e nel male, con rispetto parlando, più di 20 anni di telecronache con Pizzul. Con Pizzul, che bravissimo, ma quella voce nasale. Eppure gli dava cioè almeno la riconosci, cioè. Sì, però insomma, sai, un'ora e mezza così non era semplicissimo da ascoltare. Mischia furibonda, capito? Poi bravissima. No, invece Martellini era figo, perché mi ricordo alla finale dei mondiali dell'82, Rossi, ha segnato Rossi, cioè l'entusiasmo, sì, proprio, sì. Capito? Campioni del mondo. Che poi, se tu ci pensi, alla fine tutti quelli di quella generazione parlavano tutti come Pertini. Cioè, tu senti l'intervista di Bertini, senti Martellini, senti Berlinguer, perché finiva Nini, senti tutti Berlinguerini, no, sì, no, però erano un po', come posso dire, forse perché erano tutti asettici, non mi viene una parola, però erano molto, c'era una specie di rigidità espressiva, l'addizione, beh, perché c'era un'educazione, si scandivano però non esprimevano in qualche modo emozioni particolari, capito? Guardate, ma il loop, allora mi dimentico sempre del loop. Comunque c'è un giocatore svizzero che si chiama Embolo, io non vorrei dire niente. Giustamente, per campanilismo, il nostro Shuren, che tra l'altro prima ci ha detto c'è ma sta giocando a My Time at Sandrock, dice non mi toccare Pizzul. Questo è campanilismo puro, attenzione, perché credo siano entrambi di Udine, se non sbaglio, no? Sì, penso sia un friulano. Sì, Pizzul, sì, storicamente friulano. Ma io friulano, poi ho visto che tanti erano friulani, cioè nel senso tanti friulani. Comunque, non so se... perché tanti abruzzesi sono andati a pure Dino Zoff friuli. Era friulano, vero? Sì, credo di sì. Perché era? Che è morto? No, ancora no. Ok, no, perché ha cambiato cittadinanza. No, io penso che non gli manchi tantissimo. Io faccio il tifo per Embolo. Sono terre difficili, nel senso che comunque montagna aspere, alta, aspere. Montagna aspere, vedi, perché noi siamo terre aspere. Allora, ragazzi, io credo probabilmente chi sta seguendo la diretta in diretta e non noi cialtroni sta già guardando la partita. Chi segue la diretta in differita, invece il nostro streaming sta allora, per sappiate iniziare. Che noi siamo un minuto indietro del mondo regolamentare, voi siete altri 15-20 secondi indietro rispetto a noi con l'audio, quindi cioè questa cosa di abbassare la televisione, è come se stesse guardando una partita su Italia 1 negli anni 80. Esatto, più o meno, sì. Poi se però noi c'è avessimo... meno pubblicità, dai. No, però se noi avessimo avuto un solo dispositivo... perché questi bastardi non vogliono sponsorizzarci, non ci pagano, perché sennò col cazzo, sarebbero stati 40 minuti di pubblicità come minimo. Se qualcuno ci avesse finanziato con mettila sul mixer, così se cade facciamo il danno. Faccio così, faccio prima. Se qualcuno ci vuole regalare poi un decoder del digitale terrestre, noi siamo contenti. Abbiamo lo sponsor, carta da cola. Mischia furibonda. Attenzione, perché ovviamente subito porco a patire mondo, nella nostra porco area mondo. Però vabbè, insomma, vabbè, la vita è questa. Allora, vuoi sapere il pronostico di Gemini? Cioè, Gemini è... Allora, Gemini dice per pareggio molto alto come probabilità. Aspetta, fammi indovinare. Vai. Vittoria dell'Italia media. Vittoria della Svezia media. Esatto. Mi ricorda vagamente qualcosa. Solo la prima partita se è un po' sbilanciato. Oh, questo Akanji, questo è proprio svizzero doc, Akanji. No, cioè, ma stai a leggere i nomi, mo non sì, è sì. L'unico che c'ha nome italiano è Embolo, è nero, quindi c'è proprio la confusione totale, però va bene perché è multietnico. Ma forse è Embolo. Embolo, sì, probabilmente. Ma per me è Embolo, però. Beh, sì, perché ci fa più. Per me è più Embolo che altro. Comunque, no, ritornando alle telecamere di Pizzo, era figo perché lui si infervorava tanto e usava queste metafore, diciamo, da seconda guerra mondiale, tipo non passa lo straniero. Vabbè, sì. Cioè, queste cose. Giocano bene questi. e mi ricordo una meravigliosa partita Italia-Cina di tantissimi anni fa, quando insomma noi non eravamo abituati ai nomi cinesi, che lui nominava questi giocatori cinesi, ma basta per insomma si reinventava, capito? Oppure, esatto. Murat, questo, allora, questo è un rivoluzionario francese, l'allenatore si chiama Murat. Murat. Pensa che adesso me la ricordo. Oh, ma quanti fratelli c'ha Balotelli, raga? No, dai, non facciamo le battute razziche. Comunque, dicevo, era una partita Roma-Cina, ecco, ancora me lo ricordo. Un'amichevole internazionale, non so perché. Roma-Cina. Suona un po' come Corea del Nord contro squadra brasiliana. Esatto. Che loro hanno spacciato per il Brasile, e quelli quando hanno sentato dietro lo stadio hanno detto, ci hanno un po' inculato qua. Comunque, vabbè, meglio insomma dare retta, insomma. Anche perché non so se hai sentito, è stata eseguita una condanna a morte su un ragazzo in Corea del Nord colpevole di aver visto una serie TV della Corea del Sud. Perché è una cosa grave. Cioè, pensa se avesse visto i Cesaroni. Secondo me i Cesaroni lo tolleravano di più. Lì è proprio una questione di principio, capito? Cioè, se tu sei uno della Corea del Nord e guardi una serie televisiva della Corea del Sud, sei stupido. Ah, ragazzi, ho trovato una cosa bella delle partite alle 18. Non mettono quelle giacche di merda in panchina, si mettono solo la camicia. Sì, ma vedrai che dopo. Ma secondo me se ne so, qualcuno glielo deve aver detto, cioè nel senso tipo se dopo ho due partite... capito, però quello è anche un contratto con uno sponsor, non è che stanno lì a caso, capito, ma lo sponsor l'arbitro collina può essere, d'altronde lui è il responsabile internazionale degli arbitri, sì, beh. Attenzione, Che schifo, mamma mia, che schifo. Non finirà più, scusate, so che questa cosa è molto radiofonica. Quella ma... è materia cerebrale. Ma mi sembra di ascoltare Leo Varga, che salutiamo. Esatto, vabbè, Leo fa di tutto, a volte si incanta anche, cioè durante le dirette lui si incanta, che è la cosa più bella, quei spazi vuoti di radiofonia che noi ci piacciono tanto. E intanto la Svizzera attacca. Ricordiamo, allora, giusto per una questione di cronaca, Marco, quali sono gli italiani? Gli italiani sono quelli che parlano italiano, ma no, aspetta, etimologicamente sono quelli che praticamente discendono da tutta la razza, però, una specie di coacervo mediterraneo. C'è un bias, c'è un errore, perché tecnicamente anche gli svizzeri potrebbero essere quelli che parlano italiano in questa partita. Esatto, non esatto. Che parla, però quelli che discendono proprio perché da questo coacervo italico della penisola c'è un po' di greci. Tra l'altro voi non seguite di nordafricani anche, perché voi non seguite il canale di... Instagram. Oh, Sharawi, raga, ma stanno facendo giocare Sharawi. Così. Se lo sono ricordato che c'è. Oh, il Sharawi. No, dicevo, voi non seguite probabilmente il canale Telegram di Instagram di Azzurri, insomma, dell'ufficiale della nazionale. No. E ogni tanto i giocatori gli fanno dei quiz e oggi a Zaccagni gli hanno chiesto: quante lingue si parlano in Svizzera? Una, due, tre o quattro? Lui che ha risposto? Una. Lo svizzero? No, ci ha provato. No, devo dire ci ha provato. Due. Svizzero italiano. Ha detto tre. Le maggiori sono tre, in effetti. Allora, in realtà sono italiano. Vabbè, i cantoni sono quattro, giusto? Però abbiamo quello tedesco, quello francese, quello italiano. E il quarto? È quello svizzero. La Svizzera è lo svizzero. Svizzero. E che parlano? Lo svizzero? Penso il tedesco. Ah, no, c'è okay. Poi c'è il fran. Il sì, comunque sono quattro le lingue. No, il è una cazzo, famosa lingua romanza chiamata il Frozen. Il Frozen. Che nome è il Frozen? Non mi ricordo. C'è un nome strano. Frozen. No, è la Sirenetta. Parlano la Sirenetta. No, c'è un nome strano. Ah, chiediamo a Michela. Michela, qual è la quarta lingua della Svizzera? Dai, il romancio. Il romancio, che insomma è una via di mezzo tra quello. Il romano e il manciurio. Esatto. Questo esatto. Cinese è un po' sporco. Romancio, esatto. È una lingua calcistica che parlava anche Vialli. Mancio Vialli. Giusto, i gemelli del gol, ricordiamolo sempre, insomma. E però è una lingua che porta sfortuna. Ma sì. Tra l'altro, Gualdi, ritornando a Runtime by Night di ieri sera, sei sopravvissuto nonostante aver parlato con Francesco? Sì. Credo. Io pure, sì. Anche se a un certo punto sono andato a dormire e ho sentito un formicolio sul braccio sinistro. Hai sentito la morte? Esatto. Che ti diceva bello, pizza, sono a morti. Sappiate, cercate, se Francesco vi contatta, non ci parlate. Non ci parlate perché potrebbe essere l'ultima cosa che fate. Insomma, pare di aver capito. Ma che stiamo parlando del nostro Francesco. Che ha scoperto di avere questo potere. Il superpotere di far morire le persone dopo mezz'ora che hanno parlato con lui. Quindi manco Death Note, mi piace. Usandola bene, sì, però poi se tu non hai il controllo su questa cosa, cioè, diventa, diciamo, non puoi più parlare con nessuno. Esatto, no? Diventa una cosa indiscrimination. Però un giorno in Parlamento lo potremmo mandare, tanto per fare una prova, insomma. Esatto. Ah sì, beh certo, salve a tutti. Dove è il ministro Salvini? No, un salve a tutti, assolutamente trasversale, assolutamente sì, bipartisan, sì. Perché qua non si salva nessuno, Ah, tu dici proprio a largo spettro, come si dicono quelli che sanno. Resettiamo. Un bel antibiotico, insomma. Esatto. Tutti i parlamentari, gran positivi e gran negativi, li secchiamo. Gran Fidenam, mica loro. Vabbè. Comunque niente, questa partita in questo inizio di frangenti, diciamo così, un po' latita, c'è un po' di movimento, la palla si muove tra le due metà campo, ma diciamo soprattutto nella nostra. Perché abbiamo molto possesso di palla. Oh, salutiamo anche Samuel Elf che dice: io sono sopravvissuto due volte all'incontro col Fra, mentre invece Michela in chat ha risposto alla domanda di Simone quante lingue parlano in Svizzera con un tecnicissimo, ma io che ne so. Ah, ok, perfetto. No, sì, Samuel, so che tu ci hai parlato due volte, ma questo è un superpotere che è emerso, diciamo, recentemente. Quindi io non m'azzarderei, diciamo, a sperimentare ulteriormente, perché poi dopo, sai, una volta ha detto bene. C'è uno svizzero che è morto, improvvisamente ha parlato con Francesco, ecco lì. ecco. Ha avuto modo di... Ma io credo che avesse fatto il vaccino. No, sì, no, no, salutatemi, è morto, però... telefonicamente funziona poco, infatti si rialza. Mentre è morto un italiano, anche lui è parlato con... Ma che è successo? Secondo me si sono scontrati, naturalmente. No, secondo me si è messo a 90 gradi per un motivo. Insomma, allora, si è messo a 90, fa vedere la coscetta, o è un crampo o è un invito. Costa 50 euro, insomma. Appunto. Considerando, insomma, che... Madonna mia, certo che quando inquadrano Spalletti tu te rendi conto, cioè proprio c'ha quell'espressione che ti porta a pensare, mamma, chi me lo fa fare guardare sto stronzo? Lo sconforto. Cioè, proprio, sì... lo sconforto. Comunque, sai, Marco, gli ha fatto la vecchia, raga, gli ha fatto la vecchia. Io ho fatto una ricerca scientifica, uh-huh, e sono andato ad analizzare, diciamo, quelle che sono le canzoni popolari svizzere più popolari, proprio conosciute. Allora, in realtà ti frego io. Aspetta, perché... no, quello ci arriviamo dopo. Ci arriviamo dopo. E praticamente è uscita fuori questa cosa qui, guarda. Incredibile. Fare essere tanto per dire, Senti come compa. Infatti è la versione dance questa. Dai, tutti insieme. Heidi, Heidi, ti sorridono i gli organi. Ok, chiunque, eh? Ma è bellissima, è proprio la canzone, bello. C'è chiuso, mi sa. Ci siamo? No, perché sentivo questa lingua romanza, ma non capivo. Io te sento. Ok, no, tu mi senti? Sentivo, parlano in tedesco. L'asset vale. Troppo forte in cuffia, non mi sentivo. Raus, Raus in the mountain. Fatte nelle montagne. Quindi vedi che è una canzone proprio svizzera questa, è una canzone popolare svizzera. Attenzione, qua c'è stato il tentativo di contropiede italiano smorzato sulla nostra tre quarti, però insomma ci abbiamo creduto per una frazione di secondo. Ma tu, Gualdi, Heidi, la vedevi da bambino? Beh sì, la vedevo ogni tanto, la vedevo lì. Non c'è impazzito. Non ho mai capito un cazzo, perché sta in mezzo alle montagne, poverina. Beh, lei è un'orfana. Ma non è un'orfana, sì, qualcuno la molla al nonno. Chi è che la molla? Gliela mollano al nonno perché non sanno, perché lui è l'unico che può avere la patria potestà della bambina. È l'unico che può uccidere. Ed è l'unico che non la vuole poi, tra l'altro. Beh, ma non poi, la vorrei manco io. Poi però si affeziona. Questa sulla salute delle pecore. Solo che crescendo poi si rende conto che lui non gli può dare l'educazione che merita e quindi la manda in a collegio. Francoforte dalla signorina Rottermeier. Rottermeier. La signorina Rottermeier. Rottermeier, dove conosce Clara, che è una paraplegica, che improvvisamente impara a camminare. È una che pareplegica che improvvisamente impara a camminare e camminare andando su anni 104 sbafo quello, cioè. No, ricordiamoci, tutto merito di Petar, che geloso la scaraventa giù dalla rupe tarpea con la sedia a rotelle, e lei a quel punto o se arza o muore. Esatto. No, e quindi così. deve far scoprire il grande inganno che le ha portato molti franchi svizzeri in tasca grazie esatto. a 104. Poi ricordiamo svizzeri. Che Peter mangiava le salsicce intere. Esatto. Cioè, come le mangiava intere? Sempre due, sai perché? Sempre due. A due. Perché lo sa, mangiava. Se la mangiava, se le comprava. Mi ricordo c'era la nonna di Peter che voleva il pane bianco perché non c'aveva i denti per mangiare. Peter il pastore, ricordiamo Peter. Lui faceva il pastore, sì. No, no, Peter il pastore. Tu non ricordi Peter il pastore? No. L'hai rimosso? L'ho rimosso. Il personaggio viene chiamato Peter il pastore. Non ti ricordi? Il no. film Heidi? Ah, ma l'hai visto tu, io non l'ho visto. Capito, ma Peter il pastore era Peter il pastore. Eh sì, vabbè, ma io il film non l'ho visto, quindi... Ha fatto male. Continuano a cadere uomini della Svizzera, intanto. Sono gli effetti della cioccolata. Mi domando, perché non mi sono informato, di quale sia il clima pomeridiano in Germania. Io penso che sia freschino, ma non caldissimo, insomma. Un po' così. Ecco qua, se vuoi lo possiamo chiedere a Gemenai, sempre. No? Chiedi a Sor Gemenai, sì sì, così guadagniamo. Intanto, mentre... Minuti preziosi. Ragazzi, ma questo... No, ho visto dei gesti palesemente erotici del massaggiatore nella zona inguinale del... Che però hanno fatto alzare subito lo svizzero, cioè, quindi funziona. Funziona perfettamente. Eh sì, perché ha detto, mo viene Calafiori. Mi sai dire che temperatura c'è oggi a Berlino? Perché sarà a Berlino, è vero? Quindi sarà fresco, dai. Saranno 22-23 gradi. È gelosa. A Berlino il termometro segna 29 gradi. 29 gradi, miei coglioni. Beh, raga, non ma è... che cazzo è questo? No, cioè, ma sarà, se può fare, dai, 29 sarà la massima, però se in questo momento cioè, ci sono 29 gradi in campo, poco non è. Vabbè, no. Però dai, si può fare 29 Beh, anni, sì, cioè, non so, 35, no. 40, insomma. No, per carità, però sai. Poi considera che vedi, cioè, adesso cominciano ad esserci le ombre dello stadio, quindi insomma, secondo me un po' di frescura, insomma, vabbè. Comunque, dicevo, ho chiesto a Geminai ovviamente il pronostico, abbiamo detto pareggio probabilità alta, vittoria d'Italia e vittoria della Svizzera probabilità media, però io gli ho detto sì, ma è un'eliminazione diretta, quindi chi passa il turno secondo te? Probabilità di pareggio media. No, ma ha detto che in realtà se voglio sapere il risultato devo vedere la partita. Ah, mamma, neanche comunque, la DC riesce a essere vincerà il migliore. Vincerà, non è detto che vincono sempre i migliori. No, vincono quelli che vincono di solito. Vincono quelli che sculano, cioè quelli che la mettono di più, insomma. Ragazzi, il nostro vate di sempre sarà Vucevic in Bosco con la sua filosofia calcio, quindi arbitro rigore è quando arbitro fischia o cose del genere, insomma. E comunque volevo ritornare un po' indietro nel tempo alla partita precedente dove i croati, caro Walter Sbano, si sono molto lamentati negli 8 minuti di recupero. Ma in realtà, allora, col senno di poi è stupido, nel senso che non è che gli 8 minuti siano un vantaggio rispetto all'altro, esatto. Si è comunque in 22 in campo, poi potevano segnare loro, poteva succedere qualunque cosa, esatto. Però poi alla fine se vai a però vedere... io lo capisco che te lo del culo a prendere il gol all'ultimo minuto del il discorso, esatto, che quel gol non lo sappiamo nemmeno noi come cazzo l'hanno fatto, perché se ci pensi a un certo punto qualcuno ha detto raga, ma stiamo qua per giocare a pallone, allora famo un triangolo, chiudiamo un triangolo, vediamo che succede. Esatto. Capito? Esatto, e vabbè, comunque Shuren ti consiglia di vedere il film Heidi, che è ancora su Prime Video tra l'altro, esatto. Che dice che è molto molto sì, alla fine merita. Ne ha parlato Marco Gualdi insieme ad Olivia su Ho visto cose. Tra l'altro, cercate il podcast. Inviai anche il video di commento, ma non è mai stato fatto. No, lo facciamo? Lo facciamo, dai. Procuro il film. Io e te lo facciamo? No, c'è già, bisogna solo montare. Ok, insomma, non è facile, capisci? C'è la questione dei copyright. Già. Copyright, pitch già. E reversi. Come ragazzi, attenzione, che no, niente, potevamo fare un cross in area, ma no. Non cioè, ecco, ora ditemi Rodriguez. Rodriguez. Ditemi se è del cantone italiano, del cantone tedesco. No, Rodriguez, canton catalano. Ti preciso subito una cosa: la Svizzera è piena di slavi e albanesi. Cioè, nel senso, Rodriguez nell'uno nell'altro, e vabbè, e ovviamente anche di altre nazionali, cioè, nel senso che comunque è piena di naturalizzati. No, no, ma io ci scherzo, va bene. Nel senso, l'Italia tu l'hai mai visto il campionato svizzero? Cioè, no, non esiste il campionato. No, esiste il campionato svizzero, però. Io voglio dire, l'Italia come nazione deve prendere questo percorso perché sennò siamo fottuti. Esatto, esatto. Però, boom, ah no. Ma noi l'abbiamo preso, perché noi c'è sia nell'under 21 che nell'under 17 ci sono. Sì, sì, no, ma io estendevo poi il concetto al welfare, altrimenti le pensioni sono finite. Ah, ok. Servono nuove generazioni. C'è della satira politica in questo. No, ma in generale, culturale, perché poi non è che il problema sia attuale. Che il vero problema è capire se moriranno prima i vecchi o l'Inps. La cosa è una bella questione. Lo vedremo col tempo. Bella questione. Il problema è che quello che la gente non ha capito è che per avere una pensione in tempo decente devi iniziare a lavorare a 14 anni, quindi siete stupidi voi. E devi smettere a 75, però. No, se tu inizi a 15 anni, a 69 anni puoi smettere. Sai qual è il problema? Io ho iniziato anche presto, perché ho iniziato ad avere contributi a 19 anni, ci sta. Il problema è che poi a 30 e spicci mi sono fermato, perché essendo diventato autonomo non ce la faccio a pagarmeli da solo, regà, non ce la faccio. Ti sei infermoato. Mi sono infermorato, esatto. Attenzione, contropiedone della Svizzera. Mamma mia, vabbè, no, però dai, per fortuna che sono svizzeri, se no ci avrebbero già rotto il culo. Però meno male che non era il Portogallo. No, allora c'è da dire, il cross è stato puntualissimo. Poi purtroppo c'era. Però adesso attenzione, perché ovviamente c'è un rapidissimo inversione di campo. E anche qui, boom, niente. Se non puoi fermarlo, abbattilo. È il Sharawi per terra, una cosa però, del genere. Sì. È una tecnica di Kung Fu, credo. Saka, madonna mia, tutti caca. Si pronuncia caca. Saka, pensa che è albanese. Saka, sì, credo di sì. Si pronuncia caca comunque. No, Sciaca forse c'era, forse Sciaca, sì, può essere. Per esempio c'era un giocatore della Lazio albanese che si scriveva Kana, che però si pronunciava Xana. Quindi Xanax, buono. No, Xanax, due goccine servono sempre, specie allo Tito. Sì, beh, cos'è un rigore? Cosa stai facendo? No. È un calcio di rigore, però fuori d'aria. No, è una bella punizione da tre quarti. Questa... Se ci fosse stato un Pirla, per esempio, un Pirla, sì. Pirla, quanti ne vuoi? Questo è freudiano. Se ci avessimo avuto un Pirla, avremmo segnato. Ma anche un Del Piero, anche quella del è proprio la classica zona. Anche un Del Pirla, quindi, diciamo. Un Del Pirla, abbiamo risolto. Esatto. Come si chiama il portiere Posponer? Come si chiama? Spooner, fa i cucchiaini? No. Non ho capito. Tra l'altro, diversi giocatori della Svizzera hanno rilasciato dichiarazioni. Io ho visto una cosa, scusate, non mettono mai, questa almeno sulla cronaca Rai, non mettono mai le sovrimpressioni. Attenzione, mamma che cicca. Mia. Vabbè, vai, scusa, Simone. Vabbè, no, dicevo che diversi giocatori francesi, cioè un giocatore svizzero, durante la conferenza stampa gli hanno detto: vabbè, ma voi con l'Italia più o meno avete sempre perso. Cioè, sì, però noi siamo qualificati ai mondiali e loro non ci sono andati per due volte. Vabbè, che cazzo vuol dire? Cioè... Così ha voluto buttare e poi l'hanno massacrato. E giustamente il giorno dopo ha detto: ma io non volevo offendere l'Italia, che è un paese che amo e nel quale mi vorrei giocare in Serie A. Sì, è la mia seconda casa. No, gioca già in Serie A. Quindi non so quale. Esatto, non so quale giocatore fosse, però. Mai sputare nel piatto dove mangi. Io lo dico sempre. Vabbè, però mi sembra una partita più equilibrata delle precedenti che abbiamo vissuto. Però stai agli ottavi. Già la paura dei supplementari addosso. Questo è il problema. Infatti, abbiamo posticipato le pizze alle 8:30. O anche pizze pazze. Le pizze. Poi, sai, per scaramanzia, io dico: questa è senz'altro l'ultima partita. Poi basta. Ma poi alla fine, sai, che se passiamo, allora, sono felice. Però. Allora, su questa cosa devo dire la verità: cioè, la Svizzera è alla nostra portata. Poi, sai, dipende sempre da quanto siamo noi alla portata della Svizzera, che quello è un po' il problema. E in più, siamo capitati nella parte del tabellone più sculata. Cioè, nel senso, sì, come al solito, noi i grossi saluti della, esatto, noi abbiamo sempre questa cosa che noi ci qualifichiamo per il rotto della cuffia, magari ci ripescano pure, e poi eccoci in finale. Sì, noi c'è il rischio che incontriamo l'Inghilterra, l'unica dell'Inghilterra in semifinale, quindi che sarebbe... un giorno scopriremo che praticamente c'è una grande mente, un'eminenza grigia italiana, che in realtà, cospirazione, no, esatto, che in realtà dice: questa la dobbiamo perdere, questa la dobbiamo pareggiare, qua dobbiamo arrivare, allora, no, secondi. Che l'Italia non la famo andare ai mondiali, perché ci deve andare l'Arabia Saudita. Però poi gli fammo vincere gli europei, capito? Cioè, nel senso, poi vabbè, ho capito. Abbiamo già fatto quello. Lo so, però poi dopo ci siamo. È proprio l'Italia che si deve sacrificare per l'Arabia Saudita. Però perché poi dopo ci siamo non qualificati per la seconda volta, quindi vedi che alla fine qualche risarcimento. Ma era semplicemente per giustificare la prima, insomma. Esatto. C'era una coerenza in questo. Allora non è stata un complotto, cioè sono proprio pippe. Tu poi ti ricordi il mondiale precedente, non questo che c'è stato, ma quello prima dove non ci siamo qualificati, dove si è giocato? In Arabia Saudita? No. Quello prima, in Vietnam, Russia. Vedi, ma eravamo un altro mondo, ragazzi. Sì. Eravamo proprio in un mondo ancora, pensavamo di essere tutti uniti e felici. No, io non lo pensavo. No, però il mondo lo pensava, insomma. Poi improvvisamente la Russia è sparita dai, insomma, però. Beh, basta fare un'invasione di campo, insomma. No, giustamente, niente. No, però giustamente poi le squadre israeliane fanno parte, insomma, continuano a partecipare ai campionati europei per club, quindi insomma. No, perché poi c'è stata brutta storia, insomma, la squadra di Tel Aviv a Firenze, dove tutta la curva Fiesole con le giocatori della Palestina e i giocatori di Israele che hanno tirato fuori le bandiere, e lì è scoppiato, poteva scoppiare qualcosa di brutto, no? Ma sai che c'è, cioè, lì io continuo a schifare questa equazione che bandiera della Palestina uguale supportare Hamas, che è una cosa veramente vergognosa. Ma infatti è una stronzata. È come quando tu parlavi male delle politiche di Israele, allora sei nazista, sei antisemita. No, io dico, cioè, sempre sì, quando a chi risponde: ah, perché se sostieni la Palestina sei antisemita? Dico: guarda, no, tu sei stronzo, io sostengo la Palestina perché sono antifascista. Do you know la differenza? Esatto. No, ma pure quando, che ne so, dice, io no, cioè, nel senso, comprendo e sostengo ovviamente il fatto che mi dispiace quello che vivono i tizi in Ucraina, perché chiaramente l'invasione e tutto quanto, ma non è che io simpatizzo per Zelensky e compagnia. Ah, allora Putin è meglio, ma che c'entra? Ma cioè, chi ha mai parlato di Putin è meglio, insomma. Comunque, torniamo alla partita. Oppure Gualdi, vuoi introdurci la musica? Allora, mentre tutto vediamo come finisce questa azione perché, che è importante, per fortuna, fino a cazzo. Allora, devi sapere, Pizzi, che in Svizzera c'è una grande tradizione musicale. Musicale. però ci sono giusto un paio di canzoni in realtà, cioè, che diciamo sono che hanno uno stile musicale più o meno. Cioè, no, uno solo nel senso loro hanno un vanto, hanno un paio di canzoni che sono un vanto e noi andiamo a le che sono la stessa entrambe. Canzone no, le sentiremo entrambe, okay. Le sentiremo entrambe perché queste qui praticamente sono sono le due canzoni più famose svizzere, lui ci tengono tantissimo. Dopo quella di Heidi, però. Dopo quella di Heidi, okay. Che però quella, Heidi, insomma, chi l'ha fatta Heidi? E l'ha fatta Madonna Donnarumma. Però potrebbe prendere aspetta, raga, momento di ansia. Allora un momento perché la palla è ancora in gioco. Meno male che c'è fuori gioco. Vabbè, raga, niente, ancora una volta Donnarumma si è guadagnato. Io mi complimenterei con Walter per la sua qualità tecnica della telecronaca, che No, raga, ma guarda che poi potrebbe essere la telecronaca del Young Signorino. Poverino, non è riuscito a sfondare perché non ha retto l'emozione. Ma chi? Young Signorino. Ma poi sì, ma che fine ha fatto? Penso sia in clinica. Esatto. Speriamo per lui. Fortunato. Comunque, in ogni caso, c'è questo grande artista. Vedi quanto è svizzero questo, hai visto? Ti ho detto prima quanti fratelli c'ha Balotelli, te mi hai detto non fare battute a sfondo razzista. C'è questo, comunque, diciamo, questo grande artista in Svizzera. Che si chiama. Io ho paura di saperlo. No, Huber Scaramazza. Potevo rimanere offeso. Huber Scaramazza, che praticamente è questo grande quindi artista. È del cantone italiano? No, lui è tedesco. Scaramazza. Come così? Vabbè. Possiamo chiamare. Come no? Possiamo chiamare Uber. Si chiama Uber. Uber. Come i taxi. Si può chiamare taxi. Come infatti, i taxi. Infatti. Ci sono i taxi. Vabbè, questo quindi... grande artista anni 70, 80, anche 90, adesso si è ritirato, che ha fatto questo. Secondo me dalla qualità del suono, secondo me anche 50, no, 60, lui... però insomma, stiamo parlando di anni non... questa è una registrazione dei primi anni 80. Ok, lo dici tu, a me mi sembra. Se... No, questa prima... siamo in Svizzera e loro sono bravi a fare le cose, però le cose tipo però c'hanno i microfoni meccaniche, vecchi. Il microfono meccanico non funziona tanto bene. Il famoso microfono meccanico. Esatto, a ingranaggi. Che consiste? Aerologeria praticamente, quindi okay. Funziona così. I svizzeri sono quindi è un microfono di precisione. Di precisione, okay. Però il suono lascia un po' a desiderare. Comunque questa canzone che si chiama Yodel Verse, che è appunto un vanto. Quindi è una cosa un po' marveliana. Cioè ci porta verso lo Yodel Verse. Cioè esisteva la Marvel, ma non era ancora famosa. Non era così famosa. Quindi forse la Marvel quindi è un po' copiato da Yodel Verse. È un po' yodeliana. Ah, ok. Così. Interessante. E quindi direi di andarci a questa è proprio musica classica svizzera, diciamo, sì. Quindi proprio lo Yodel allo stato puro. Sperimentale, anche sperimentale, eh? Era un po' progressive. Andiamo a sentirlo. Odelaide odile odele delle dio odelaide odile odele o a odelaide odelaide fio stella alpina dimmi tu quanto è bello il mio cucù me lo guardo me lo ammiro e poi faccio un gran sospiro. Scusa, perché canta italiano? Odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide odelaide Der Käse erfreut mich viele Löcher, er enthält gute und schwarze Schokolade in den Bunker werde ich essen. Mucche e pascoli senza fine, tra montagne di confine, coltellini e ricche banche. Cioccolate nere e bianche. Ole, ole, lei, hi, hi, ole, hi, hi, li, de, de, di, o. Ole, ole, ole, lei, hi, hi, ole, hi, hi, di, o, a. Ole, ole, ole, hi, hi. A l'intérieur du bunker, je l'apprécie, le garde-frontière sur lequel je crache, alors qu'il traverse la frontière, seulement pour se languir de l'essence. Ma quanto dura? Do sussidio a famiglia perché siamo neutrali, ricchi, allegri e un po' banali. Ma canzonona, bro. Questa è una citazione. Bisognerebbe chiedere a lui, ma è morto. Oh, quanto dura? Yodel è importante. Anche lui, però, cioè, è una canzone importante, cioè. Questa è la canzone più, una delle più, è finita, meno male. È una delle canzoni più importanti della storia della Svizzera. Sì. Allora, poi diciamo che andremo a sentire la seconda canzone più importante. C'è anche, come posso dire, una sorta di identità satirica dal punto di vista sociopolitico, perché loro si autocriticano, no? Dicendo noi banche, cioccolata, bunker. No, non è che si autocriticano, loro fanno, cioè noi pieni, loro sono orgogliosi. Sono orgogliosi, poi c'era anche nel pezzo francese. Esatto, in cui, perché poi ho capito più perché critico. Il pezzo francese in cui lui critica i frontalieri che praticamente attraversano il confine per andargli a togliere la benzina. Gli italiani, poi italiani. Lo ce l'hanno con gli italiani, però non lo dice direttamente. Lo dice in francese, così non capisce. Non capisce, però noi esatto. Con te e con sé di poi. Abbiamo. Esatto. Nel mentre, Walter, che è successo? Ma ricolleghiamoci. Ci sono stati un paio di rovesciamenti di fronti, anche una pseudo. Cioè, hanno preso le fronti e si sono. Esatto, azione. Sono brutto, però. Su palla ferma nell'area avversaria, però non è successo un bel amato. Si avanza a palla ferma, insomma. Ogni tanto abbattiamo un naturalizzato svizzero, però insomma non ma è. Ma c'è uno che ha per diciamo per curiosità, uno che ha un nome tedesco, tipo Schwarz, tipo. Così, ma perché no. Per tipo l'hanno preso come mascotte, non c'è. Ma nemmeno non è che mancano quelli col nome tedesco, mancano anche quelli col nome diciamo italiano, manca anche un rezzonico. No, c'è Embolo, i piedagliani così. Così è Embolo. Un bolo secondo me invece. No, comunque è vero, cioè nel senso che alla fine loro fanno una cosa intelligente, essendo comunque diciamo una nazione multiculturale che ha anche molta immigrazione, perché giustamente se campa bene in Svizzera gli stipendi sono buoni, loro dicono tutte queste risorse che vengono da fuori, invece di fare no, ognuno al paese suo, gli fanno pagare le tasse e li usiamo per il nostro movimento calcistico. Se lo capisse anche quel pirla di Salvini è quello che a cavallo dico, è quello che dico, cioè nel senso non è proprio. No, Salvini lo capisce, cioè lo sa, ma non gliene frega un cazzo, no, quindi, no, perché cioè, lui deve dare retta a quei quattro stronzi che segano un braccio all'indiano e lo fanno morire. Sai qual è il problema? Che i nostri politici continuano purtroppo a godere del ragionamento dell'assioma che tanto qualunque cosa succede il loro stipendio è assicurato, quindi non gliene frega materialmente un cazzo perché non guardano oltre se stessi, tranne quando tu gli chiedi perché perché la gente non va a votare o non va a votare perché sa che la democrazia è solida, che è molto solida. E lì giustamente Cacciari ha dato il momento, io era tanto tempo che non mi alzavo in piedi a battere le mani, devo dire, stavo a letto, mi sono alzato dal letto e ho iniziato a battere le mani a Cacciari, che l'ha proprio mandato a far culo. No, Cacciari alle volte spara delle stronzate proprio subatomiche come le particelle. Però poi non te la manda a D, cioè. Attenzione. Cioè, solo un giocatore svizzero che si è fumato letteralmente con due dita la difesa italiana. Il giocatore italiano si è indignato. C'è questa indignazione che è un po' preoccupante, perché dice: ma io sono indignato. Comunque, diciamo che se proprio dobbiamo dire, la partita è equilibrata, ma secondo me forse i svizzeri stanno a fare qualcosa di più, come al solito. Sì. Tanto a noi ci serve solo un tiro. L'Italia è pragmatica, esatto. L'Italia è pragmatica, cinica, si dice cinica, le squadre ciniche, esatto, tipo la Juve che non fa un cazzo e poi interviene l'arbitro o interviene l'arbitro, oppure vabbè, c'hai i campioni, quindi prima o poi qualcuno la palla dentro la porta ce la mette. Ma invece, sempre per tornare, c'è questa bellissima cosa, no? Che adesso nell'atletica ci sono tanti ragazzi di colore che, cioè, ragazzi, sono leggermente, sì, ma di più... che colore? Cioè, anche noi siamo di colore. Un po' più scusi, rispetto agli americani. Neri, lui vuole dire neri. Che si dice neri? Neri, si dice neri. Non so, perché essere più sono neri, sono maroni, allora sono maroni. Cioè, ragazzi, scuro, maroni. Chiaro, comunque, ogni caso, c'è stata un'altra dopo... queste che sono comunque fisicamente, cioè, ragazzi, dopo un po' più dotati di noi. Eh sì, sì. E quindi, sono predisposti. E quindi Calafiori non è d'accordo. Quindi hanno, vabbè, ma lui è l'eccezione che conferma la regola, ragazzi. Comunque hanno fatto vedere, insomma, i sorci verdi durante gli ultimi campioni di atletica, che hanno vinto, dove hanno vinto parecchie medaglie. Che ricordiamo, campioni di atletica europei, di atletica, che si sono tenuti a Roma nel silenzio totale, perché esatto, non se n'è accorto nessuno. Io non lo sapevo, se lo sapevo ci sarei andato anche a vedere qualche cosa. E abbiamo vinto un sacco di medaglie d'oro, appunto, questa prima generazione di, diciamo, salutiamo di... anche la nostra quota rosa, Rostyler, che ci ha raggiunto. Invece di essere contenti, io finalmente avevamo fatto il culo, sì, alla gente dopo anni che dicevamo ai americani, no, ma questi ce l'hanno neri, grazie che vincono tutti, quando ce l'abbiamo noi delle aree forti non va bene, non va bene, perché sono troppo neri, non rispettano l'italianità. Ma chi l'ha detta sta cosa? Un sacco di gente. No, si può mandare un bel vaffanculo? Sì, no dai, insomma, vabbè, allora questo è un momento veramente... tra l'altro stavo a vedere un short, insomma, un pezzettino, un estrapolato dell'intervista di quel rapper, quello cicciottello, che adesso non so come si chiama, che lui dice, vabbè, ma nel senso... Jack LaFury, bisognerebbe staccare, cioè, nel senso, io dice, a me se me levano internet oggi, al di là di ovviamente la questione del processo, a me non mi cambia niente, perché il problema è che internet ci ha portato i social di per sé, non è che, cioè, dovevano servire per mettere le persone in contatto con altre persone e discutere, invece la gente le usa per insultare le persone, per insultare la gente, insultare le situazioni, è proprio questo il marcio, no, di tutta questa situazione, che ovviamente qualcuno sta fumando fuori dalla finestra e io sto morendo, però vabbè, insomma, quello non c'è nessuno che fuma, no c'è. Se senti il fumo, sai che qual è il problema, lo so, ecco. So sempre quello, però ti assicuro che c'è. Ricordati che hai parlato con Francesco ieri sera, quindi è passata mezz'ora, quindi che è successo? No volevo guardare la batteria del nostro monitor, mamma mia che bello, che dice la batteria, non da qui dal pieno schermo non si può possiamo sapere il pieno schermo pieno, è che poi il pieno schermo è quello del Grande Fratello, no? Esatto, vediamo così, no ce n'è sì arriviamo tranquillamente a fine partita, così. Ma a meno che non ci siano supplementari. O i rigori. E supplementari, noi sai che famo, se mettiamo de fuori a sentire quello che succede, i rigori, perché tanto la gente ce lo dice, insomma, prima ancora, c'è prima ancora. Ma d'altra parte, ragazzi, noi abbiamo affittato il satellite fino alle 20, dopodiché esatto il satellite, ricordate che... quando all'epoca c'erano, si affittavano i satelliti, sì. La trasmissione satellitare finiva a una certa ora, sì è vero. E invece adesso qualche finale tipo di come si chiamava la partita che giocava la vincitrice della Coppa dei Campioni, l'Intercontinentale, gol della Svizzera, eccoci qua ragazzi eravamo distratti a parlare di tecnologie e la Svizzera ci ha infilato e va bene, cioè, no, un bel gol, cioè, non spettacolare, intanto, ma salutiamo tecnico. Anche Ruggero, che si è palesato proprio per dire gol sui, quindi ciao Ruggero, ben trovato, ci dispiace che tu sia portatore di sventura. Ti ricorderemo sempre per puoi questo, puoi anche lasciare la chat la prossima volta appare, non ci mancherà, moriremo tutti, esatto. Vabbè, ci sta che la Svizzera passi in vantaggio, perché comunque hanno fatto un po' di più. No. Ma solo poco. Beh, ma in realtà, dai, c'è tipo il 90% di possesso palla. Vabbè, ma cos'è? Cioè, guarda l'azione. Ma guarda, poi, guarda, scusa, che azione, hanno fatto gol e festeggiano bevendo. Pam, tra l'altro, non so se... cioè, un attaccante lasciato completamente da solo in mezzo all'area. Vabbè, come è successo? Completamente da solo. Guarda. Come è successo pure con Coso, cioè, là, ma la difesa italiana, raga, ma che poi una volta non ci va proprio di correre, cioè l'abbiamo detto in tutte le salse, proprio l'anche stiamo sferata, lì, stiamo lì per dovere istituzionali, ma non ci fate fan cazzo. Beh, diciamo che questo l'ha stoppata un po' a bucio de culo, cioè, nel senso. Noi siamo qui a bucio de culo, pensa un bucio po'. De culo, bucio de culo. Comunque, vabbè, Donnarumma è indignato, è molto indignato. loro sono felici. C'è stata la Remo Freuler, attenzione, questo è terribile. C'era. Ci ha purgato proprio lui, poi, della... esatto. Però cioè, si chiama Remo, quindi. Tra l'altro è quello che gioca in Italia, che ha fatto la conferenza stampa che ha fatto indignare tutti, quindi vedi, ha pure fatto gol, quindi proprio il non prosulta del godurio. Del godurimento, e vabbè, ragazzi, doveva succedere, ma poi vediamo. Insomma, doveva succedere, ma ci aspettavamo che succedesse ai supplementari. No, ai supplementari, noi. No, infatti, noi sai che all'ultimo minuto del supplementare, poi tutti ai rigori. Comunque, Ruggero dice: ci sono dall'inizio. Allora, intanto, se non ho visto in chat e non ti ho salutato, me ne scuso. Ah, ma evidentemente, se no era in stealth. È bello che si è palesato soltanto per portarci sfiga. Intanto, ne approfitto. Grazie, sempre grazie. Dato che c'è Ruggero, ringraziamo tutti quelli che mi stanno dando tutti feedback sulla puntata del Grande Reset. Mi stanno arrivando diversi messaggi. Poi risponderò piano piano a tutti quanti. Grazie. Molti gentili. E continuate a sostenere Runtime Radio, quello soprattutto, perché noi comunque andiamo avanti, cioè nel senso, allora sì, ma il mondo va avanti anche senza Nazionale Italiana di Calcio, è la seconda volta, e anche senza questo giocatore morto Shaarawy, che è Shaarawy. Allora, ma per carità, noi El Shaarawy, scusa, Walter, tu che sei aggiornato, informatissimo, hai acciaccato il piedino sugli ultimi, diciamo, virgulti della nazionale. Capita che non riconosciamo qualche giocatore, però beh, El Shaarawy, che ha una decina d'anni di militanza, ancora lo riconosciamo, no, di più forse, lo riconosciamo, è un più di 10 anni che El Shaarawy gioca, no? Beh sì, non è più un pischello El Shaarawy, si è fatto pure qualche anno decina così. Poi sì, ma è tornato subito perché ha detto no, a me piace, perché c'è andato troppo giovane. C'è andato troppo giovane, ha dato un sacco di soldi. No, un paio d'anni si è fatto. Sì, però poi è tornato subito. Poi ha detto alla Roma, gli ha detto: mi riprendete per fare. Ma El Shaarawy, tu che sei aggiornato, di che nazionalità è? Lui è italiano, però di origine italiano, egiziano. È egiziano? Sì, sì. Ah, ok, quindi. Ecco perché lo chiamano il Faraone. Il Faraone, sì. Il Faraone. Vedi, non è lì chiappavo perché, tanto, perché pensavi che fosse una gallina, tipo, una faraona. La faraona. Cioè, famo il brodo, lo so. Buona la faraona. Bella faraona. Magari a dicembre, va. Ma fa un po' caldino. Ma io sai che non, quando fronte a zuppe agropiccanti, zuppe, brodi, cose, non faccio quelle distinzione. Che si diluiscono nel tuo sudore. Io mi ricordo l'ultima volta siamo andati a mangiare il lamen qui lamen atomico qui al cinese, c'era anche shuren, penso che non mi riprenderò più le... Faceva callo. No, facciamo un po'... Poi raga, ditemi quello che vi pare, ma le proprietà taumaturgiche di quella zuppa. La mangi il giorno dopo, per 3 giorni c'hai le emorroidi, sì, pure se non ci hai mai sofferto un vita tua. È vero. Vabbè, è tosta. No, quindi traumaturgica. Però è buona, sì, traumaturgica. Però è buona, devo dire. Io una volta l'ho mangiata d'estate, che il ristorante era vuoto, era a pranzo, e c'era il vecchio proprietario che è venuto da me e dice: ma sei sicuro? Dice: sì, ma io sai quando le zuppe pure se sudo. E poi era venuto a un certo punto a portarmi un tovagliolo, perché stavo proprio a grondà mentre mi mangiavo questa cosa. Dice: ma io ti capisco, perché pure io mi faccio i ravioli in brodo nonostante che fa caldo. Raga, a me le zuppe mi piacciono, non c'è niente da fare. Tutto ciò che è zuppa e pan bagnato anche. No, un po' mangiato, no, un po' di meno. Però insomma, non faccio distinzioni dell'imperatura da questo punto di vista. Mi ricordo invece che l'altro anno, o 2 anni fa, non mi ricordo, Gualdi, forse tu ti ricordi, che siamo andati a mangiare al ristorante quello, oddio, quelli che fanno il pad thai, come sono, thailandese. Che avevo preso, c'era questa zuppa che c'era le 3 in moderazione, molto piccante, piccante e poco piccante. Io ho preso la versione poco piccante. La prima cucchiaiata che ho dato mi si è chiusa la gola, stavo per morire, cioè veramente ho avuto paura di non respirare più. Io ho detto: scusate, ma questo è piccante. Attenzione, questo si è fatto, ragazzi, male da solo. Io sono preoccupato dei significati reconditi di certe frasi, perché Shuren dice: buono il ramen vostro, ci vorrebbe oggi. E avendo appena finito di dire che la proprietà di quel ramen è che dopo che lo mangi per 3 giorni c'è. Ma no, ma lui è resistente. Lui ricorda sempre, è sempre friulano. È friulano, capito? Quindi insomma. Tra l'altro voglio rimangiare il frico, però così. Messaggio subliminale. I nostri giocatori si fanno male da soli ed è brutto quando cominciano a infortunarsi semplicemente. Intanto la Svizzera ha fatto un altro gol. No, è quello di prima. Per fortuna è quello di prima, ma no, saremo 15-0. Guarda l'altra cosa che hanno fatto. Sarà un sacco di gol. Guarda, bastano sufficienti replay, moviole, per vincere il mondiale. Va bene, però giustamente. Birre che volano qua. Sì. Prego. Mamma mia. Vabbè, ma tanto loro ce l'hanno nell'endotermico. Guarda, vedi, stavolta c'è la faccia di quello che sto girando. Soltanto una zero. Soltanto una zero. Io ho detto 2, sì, punto al 2. Vabbè. forse 2-0 la famo. Adesso stanno provando una sostituzione al volo, perché c'è un giocatore giovane che che dolore, mamma mia, che tra l'altro è quasi finito il primo tempo, quindi io aspetterei. No, io non te lo volevo dire, Di Lorenzo, non ti volevo mettere ansia, però è Di Lorenzo, sì. E che me frega a me? Che ne so, per titolo. No, no, nel senso non è mica un giocatore mio, comunque da Lazio o cose, alla fine uno vale l'altro. Cioè, gioca Di Lorenzo? Di Lorenzo mi sa che gioca nel Napoli. Napoli, sì, mi pare. No, ma poi tra l'altro sono state molte polemiche nelle convocazioni, perché avrebbe potuto chiamare giocatori, invece ne ha chiamati altri, sai, questa è una cosa che succede ogni volta che un commissario tecnico convoca i giocatori, perché io sono sempre abbastanza convinto che in Italia comunque anche un bravo allenatore come Spalletti alla fine deve subire sponsorizzazione, perché in Italia comandano certi blocchi di potere, quindi certi giocatori, anche se sono mediocri rispetto ad altri, tu li devi convocare per forza, perché magari giocano a Juve, perché so di quel procuratore, e quindi fino a che questo sistema non cambierà e Gravina, eppure scusami Simo, non cadrà nel burrone. Ma io sono convinto che un po' il contrario, perché se ci pensi era il mantra di Conte, per dirne uno, ma diciamo sempre così, i giocatori delle grandi squadre che devono donare i calciatori alle nazionali sempre nei momenti peggiori sono sempre incazzati, perché gli togli i giocatori nei momenti strategici del campionato, quindi sto fatto che siano delle logiche che portano i giocatori delle big sempre nazionali, in realtà è l'opposto di quello che le big vorrebbero. Sì, in teoria sì, però in realtà poi alla fine è tutta una facciata, cioè i giocatori si valorizzano alla fine, comunque non gli sono stati a valorizzare ai procuratori tanto, forse i procuratori sì, sono contenti, ma alle società meno. Attenzione, sto per vedere un cartellino giallo per Sharawi, credo. Sì, vediamo un po' se sta. Sì, cartellino giallo per Sharawi. Ci guardi, ti l'ammonisco perché lei prima si è fatto male. Dice, guardi, ma scusi, quindi lei. Ah, ma lei è egiziano? Sì, no. L'ammonisco. Brutto gli ha fatto. No, comunque, intanto salutiamo anche di nuovo Rostyler, che ci fa sapere che sta mangiando il classico bigonzo di popcorn mentre ascolta il programma. Addirittura il bigonzo. Oh, il bigonzo di popcorn. Ha messo la foto. Attenzione, che qui c'è il nostro Buffon che sta incrociando le dita. C'era comunque la meravigliosa poesia. Intanto siamo a 3 minuti di tempi di recupero, extra time, aiuto. Sì, injury time. Comunque io c'era quella famosa poesia barra stornello romano. Mamma che diceva mia, io dei stornelli ne so un bigonzo e te li canto a te e faccia de stronzo. Era insomma mamma mia, io stava quasi a butta dentro, sì. E la stava per quasi invertare. A butta dentro, allora, al culo. Stavolta non l'ha toccata. No, toccata. Ma l'ha salvata pure stavolta. Madonna, questo è un paratone, raga. Cioè, no, vabbè, raga, Donnarumma. Ma comunque, oltre a paratone, è un tirone. Insomma, bisogna anche riconoscere la qualità della punizione. Cioè, comunque, sì, vi dirò: Donnarumma verrà ricordato come il Buffon della sua generazione. Scommettiamo? Sì, ma il problema è che lui è molto giovane. Cioè, anche nel senso, Buffon è diventato un fenomeno. Però secondo me farà una carriera molto più lunga. Beh, oddio, Buffon è stato fino a 40 anni, ha giocato tipo fino a 40 anni, e perché alla fine, ti ricordo che Buffon è stato un po' come Lewis Hamilton in Ferrari, a 40 anni quasi suonati se l'è preso il Paris Saint Germain, che poi ha detto... Non mi fai paragoni con la Ferrari perché non so un cazzo, non capisco neanche nel senso, la Ferrari l'anno prossimo avrà come pilota Lewis Hamilton, che ha 40 anni, che è tuttora un grandissimo fenomeno, però corre dei tempi di Schumacher, fate conto che cioè proprio punti sui giovani quando fai così, no? Vabbè, comunque. E vabbè, niente, in ogni caso, ripeto, secondo me c'è molta similitudine. Buffon era portiere nazionale già ai primi anni del Parma, non è che ha fatto del Parma, sì, però recentemente ha rilasciato una dichiarazione che secondo lui l'esperienza e i team nei quali ha giocato, ovviamente Donnarumma, quindi l'impatto, il Milan e poi il Paris Saint-Germain, la quantità di Champions League che già ha fatto, roba del genere, comunque lui ha accumulato esperienze che un portiere ha comune nei primi 10-15 anni di carriera, e forse anche vero con l'eccezione che poi a Parigi così tanto non gioca, è vero, questo è vero, ma lì perché secondo me andava subito sul cazzo a tutti, sì, ma poi secondo me quelli sono matti, cioè, nel senso, cioè, mi sordi, famo cazzo, cioè, noi spendiamo 10 milioni a stagione per un giocatore per tenerlo in panchina perché siamo stronzi, proprio così. Voglio dire, e niente, c'è un po' di sconforto in Donnarumma che litiga con lo svizzero. Ma secondo me adesso noi ci Spalletti che si sta informando con il terzo uomo, se il secondo tempo lo dobbiamo fare per forza. Perché? Beh, lo di fa per forza, sì. È Buffon, no? Perde 1-0. Ha scommesso regà, Spalletti sta già forte dei marmi qua, capo. Sì, cioè, però stai lì, tentarlo non nuoce, butta tutti dentro e vaffanculo. Metti, ma poi perché non ci stanno Chiesa? Almeno Chiesa, non ti dico Chiesa e Zaccagni. Chiesa c'è. No, Chiesa non c'è. Dove sta? No. C'è. Io non l'ho visto, dov'è? Dovrebbe essere avanti. Zaccagni no, mi pare di no. Butta, vabbè, butta i primi 45 si sono chiusi con la vittoria per una, col vantaggio per 1-0. Ti eccolo qua, lo volevi? Tutto sommato, vittoria non è un termine inappropriato, perché in fondo loro hanno vinto il primo tempo. Che gli vuoi dire? Tu lo sai che i giovanili fanno così, cioè nel senso, quando giocano i pulcini, se vincono i tempi non si fa il risultato finale. Che è una cosa tutto sommato educativa. Gualdi, presentaci il secondo brano, così intanto lo sentiamo adesso o lo sentiamo dopo? No, sentiamolo, c'è la pausa, che non sappiamo cosa dire durante la pausa. Vabbè, insomma, perché invece durante la partita non sappiamo cosa dire uguale, però diciamo magari lo trovo io poi qualcosa da mettere. Vabbè, no, diciamo che questa invece è la seconda canzone più importante della Svizzera, insomma, questo gruppo più moderno. La terza, ricorda, la prima è Heidi. Vabbè, la seconda è quella di prima. No, quella di Heidi è fuori concorso. Fuori concorso. Che lei va oltre. È un po' come l'inno nazionale, il secondo, cioè come livello di importanza siamo a livello dell'inno nazionale. L'inno nazionale, che ricordiamo, è uguale a Va Pensiero. Esatto, secondo te. Però questa è una canzone delle Swiss Army Band. Quindi è una cosa militare. Swiss Army Band, dillo tu perché Swiss. Beh ragazzi, la canzone che si chiama Victorinox. Non so di cosa parlate, no, io sono ignorante. Il cortellino svizzero. Swiss Army Band, ok. Swiss Army Band. È vero. E questa canzone si chiama Jodelvers. Thank you. finita? Possiamo lasciare sfumare, sì. Più o meno, sì. Ma io ho delle osservazioni da fare, poi tu che sei quello competente. Hai detto Yodel, te ne sei accorto? Eh? Hai detto Yodel? Io ho delle osservazioni da fare su questa cosa, poi ovviamente quando tu ovviamente mi risponderai che sei quello competente. Sì, perché al di là di questa contaminazione musicale tra batteria metal e canzone da balera, cioè proprio tipo insomma, una cosa. Sì, ma dimmi. Fammi la domanda. Mi sembra trovo delle similitudini con la canzone precedente. Poi adesso vuoi come se fosse un remake. Vuoi dire che insomma che gli svizzeri hanno poca fantasia nei testi e nei temi? No, non volevo. Cioè, io questa è una formazione altamente razzista. No, perché sono persone così serie. Allora, io non volevo fare un'affermazione specifica, ho semplicemente trovato delle similitudini. Vabbè, sia nelle tematiche che nei concerti. Addirittura proprio alcuni passaggi mi sembra. Cioè, questa è canzone svizzera, cioè queste sono le due migliori quindi, canzoni. Se io ascolto un'altra canzone svizzera, sono le due migliori così. Canzoni svizzere votate dagli svizzeri, ci sarà un motivo. Insomma. Ho capito, quindi loro sono orgogliosi. Sono orgoglioni di queste canzoni. Comunque, ragazzi, questa canzone mi suggerisce, così facciamo proprio una sorta di parallelo, un film che dovete assolutamente guardare se non l'avete mai fatto, che si chiama Swiss Army Man, che è un capolavoro, è la più grande interpretazione di Daniel Radcliffe dei tempi di Harry Potter. Fantastica. Chi è Daniel Radcliffe? Harry Potter. Ah, quello che fa Harry Potter. Ma è un bambino. No, adesso non più. È un uomo fatto e finito. Quindi è l'uomo coltellino svizzero. Sì. Esatto. Sì, esatto. Sì. Esatto. Ed è anche morto per tutto il film. Esatto. Ah, interessante. Non è un non morto, non è uno zombie. È proprio morto. Sì, ho capito. Viene usato per tutto il film come gadget da un altro attore. È un fenomeno. Un sopravvissuto. Quel film è qualche cosa. Bene, lo vedrò. Dove lo possiamo? Oddio, il regista è. Non ricordo se è su Netflix o su Prime Video. Forse no, su Prime Video c'è sicuramente Guns Akimbo, che è un altro film con Daniel Radcliffe, che però non è allo stesso livello. È diventato un attore. Chi cazzo è il regista? È il regista di quello lì. Ho visto anche l'altro film che ha fatto successivamente, ma non riesco a ricordare che cazzo è il ci abbiamo fatto anche la puntata di Ho visto cose non su questo film, ma e quindi possiamo. Allora, i registi sembrano essere due, comunque lo trovi lo trovi su Prime Video e i registi sono due, sono Daniel Kwan e Daniel Schneider. Ah, ecco, quello che tu dicevi che non erano le gemelle Daniels, no, quelle erano le gemelle Kessler. Sì. Vabbè, quasi. Ti piacevano le Kessler? Fisicamente, dico. Ricordo i filmati di Dada Umpa, diciamo, belle donne, diciamo, una bellezza andata per l'epoca, sì, sicuramente erano belle donne. Come te, Gualdi, tu preferivi le Kessler o la Cuccarini? Ma un po' tutte e due o tutte e tre, secondo te? Tutte e tre nello stesso letto, ma quello... perché no? Esatto. Vabbè, ma sono generazioni completamente diverse. Vabbè, le Kessler li associa a Raffaella Carrà. Vabbè, ma cioè, è comunque una cosa di fantasia. Raffaella Carrà, ragazzi, mordia di tutto. Comunque, ragazzi, commento tecnico del primo tempo del mitico Riccardo Cucchi. Dopo il primo tempo, squadra lenta e senza idea, due interventi decisivi di Donnarumma, ma soprattutto squadra bloccata. Speri in un po' più di coraggio nel secondo tempo. Quanto gli se vuole bene a Riccardo Cucchi, voi non ce ne avete idea. Beh, non a caso è da Lazio, insomma. Vabbè, dovevi fare il campanilista buffo per forza, io lo sapevo. Buffo. È per dire che nessuno è perfetto, gli se vuole bene malgrado, esatto. Comunque, ma quale grado? Tra l'altro è molto tenera la sua storia del... voi sapete che lui è, fino a che, come tantissimi giornalisti della sua generazione, ma ancora oggi è così, praticamente i giornalisti non dichiarano e non espongono mai quello che è la loro fede calcistica, per una questione proprio. E quelli di calcio tipo Pizzul, che però quando giocava l'Inter una differenza la notavi. Forse, sì, vabbè, però così. Diciamo che vabbè, ma pure a Caressa o tanti altri senti, beh, però in linea di massima riescono a essere abbastanza settici, tant'è che loro non dichiarano mai. Io ho visto un'intervista a Pardo recentemente dove dice: io sono tifoso del calcio, e dice: dai, però dai, di che squadra sei? E lui non lo c'è. giustamente. Vabbè, c'è sta perché okay, altrimenti... no, ma è giusto che sia così. Io lo, poi quelli della generazione dei cucchi, secondo me di più, perché quelli erano veramente dei super professionisti, cioè gente, sì, non ci sono più, educata proprio dalla RAI in quella maniera lo lì. Lo stile novantesimo minuto è uno stile asciutto, secco, efficace e anche di rispetto reciproco, perché non potevi rubare tempo ai colleghi, agli altri, esatto. Allora come fa Mentana, sì. Allora c'è uguale questa, proprio c'è questa bellissima storia del di quando la Lazio ha vinto lo scudetto, che lui non era all'Olimpico a fare la telecronaca della Lazio, ma era a Perugia a fare la telecronaca della Juventus, che era, quindi, quella famosa partita, che era quella che poi quando, no, beh, è con la Lazio che ha perso l'ultima giornata, sì, sì, ah, che praticamente poi la palla non rimbalza, esatto, bla, quella... insomma, vabbè, lì l'hanno, cioè hanno famosa capisse, insomma, no? Sì. E praticamente lui dice: io ovviamente, cioè, ero lì, cioè, però quando poi è finita la partita e lui ha detto, cioè nel senso, è finita la partita, quindi si sente, e si sente in effetti questa cosa dalla radio, che arriva l'audio dall'Olimpico, perché in quel caso era quello che stava all'Olimpico e doveva dire: sono le ore X, la Lazio è campione d'Italia. In realtà lui l'ha voluto fare questa cosa, cioè nel senso, cioè l'ha detto lui, gli ha rubato questa cosa qua, detto, era praticamente la fine, lui ha detto, dicevo, poi quando ho chiuso sono rimasto lì e mi sono messo a piangere, cioè mi ha fatto tenerezza sta storia, ma sì, ma cioè, è una persona proprio... che per decenni tu sta cosa te la sei tenuta dentro e alla fine ti sei levato un uomo superficie. Onesto, con l'onesta passione per il calcio e con l'onesta passione per la sua squadra, ci sta. Educato soprattutto, sì, sì. No, è una cosa veramente incredibile. Stavo cercando una canzone svizzera molto bella che si chiama ma Sverdel van Gersberber. Guarda, quel tentacolo mi pare di riconoscerlo in Tulu. Infatti è una cosa inquietante, cioè nel senso, non so se che poi vabbè niente, non la troveremo, non la troveremo. Ma perché devi far sentire una canzone svizzera? Vrendeli di Giugeberg. Allora ragazzi, allora intanto in chat per Zero dice: qua al lavoro tutti che bestemmiano, sì. E Rostaller dice: fanno bene. Ma in realtà dobbiamo prendere con molta più filosofia, ci stiamo liberando i sabato pomeriggio di stili. Ma no, allora ragazzi, ancora non è finita, ricordatevelo, ancora non è finita, perché le cose se, alla fine poi sì, diciamo, sì, non è finita, vabbè, finché, ma io lo sai che è tutta una tattica, io perché pure la Croazia era così, esatto, ma io faccio fine, ma ha funzionato, tra l'altro secondo me più o meno pure il minutaggio. Per il mignottaggio, sì. Il mignottaggio ci sta, più o meno. Intanto, vabbè, Shuren conferma che Swiss Army Man è un capolavoro. E salutiamo anche Libra che ci raggiunge e dice: buonasera a tutti, niente partita, ma vi ascolto in sottofondo. Dopo tutto, il peggio del peggio. Perché così? In sottofondo, scusa, è umiliante. Starà giocando anche lui. Cioè, tu ti senti un po' sottofondo in questo momento? Mi sento sottofondo. Comunque ho ricordato, ho visto i Daniels, sono quelli di Everything Everywhere All at Once, insomma, cioè non sono l'ultimo di Stroz. Filmone, sì. Però dopo lo sono fatto dopo. L'hanno fatto dopo, certo. Cosa? I Daniels sono quelli di Everything Everywhere All at Once. Bravo. Quindi, un bel film comunque, devo dire. Salutiamo Michel Yeoh, che ci presto che ci regalerà un'altra perla, che io non ho mai capito come cazzo ha fatto a finire nella vita in generale con Jean Todt, però il mondo è piccolo ed è strano. Vabbè, pazienza. Secondo me voleva conoscere Alvaro Vitali, si è confuso. Perché erano tutti appassionati. Alvaro, tu parli anche francese. Oui. Erano tutti appassionati del cinema. Comunque, ragazzi, quanto cinismo, quanta cattiveria, quanta cinismo, perché lei è cinese, ovviamente. E quindi, non è cinismo, è cinesismo. Esatto. Vabbè, io non lo so se prima o poi ci chiuderanno. Prima comunque o ci chiudono o ci danno il tempo indeterminato a libero. Speriamo, noi puntiamo all'indeterminato a libero, dice sempre anche Puccio che salutiamo. Tra l'altro, prima qui nelle immagini durante lo streaming Rai c'era il teaser breve di Deadpool e Wolverine, che penso il primo film Marvel che voglia di vedere al cinema dai tempi della fine 2. Esatto. No, in realtà quelli non erano ancora però nell'MCU, quindi dai tempi comunque sia di Avengers Endgame, che sti cazzi, beh, credo che Deadpool e Wolverine varrà la pena di vederlo e sarà un film divertente. Mentre prima ancora c'era lo spot della team, dove ovviamente appare tutta la nazionale Spalletti, e io ho fatto questa riflessione che voglio condividere con voi amici da casa. Facci. Spalletti, se lo paghi, sa anche sorridere. Ah sì, ma l'hai già detto prima comunque. Eravamo in diretta. Sai che adesso mi poni una. Non me lo ricordo. Ripetita Juventus. Non, vabbè, non si sa mai. Non si sa mai. Stiamo ascoltando il capolavoro sui Salmi Belli. Alle brutte, sappiate che non è che Walter c'ha un ictus, ma è che forse non eravamo in onda, o forse sì, ma non. Vabbè, ce lo diranno. Se messi in chat dicono. Se l'avete già sentita questa cosa. Non è lo streaming che si è impallato. E invece, dato che stavamo parlando di Marvel, vi dico, insomma, la nuova stagione di The Boys è follia pura, proprio. Non ho sentito parlare bene. Follia pura, allora, in che senso? No, è follia pura nel senso positivo. Oh. Però ci sono delle cose che un po' mi storcono. Molti dicono che è noioso. Io ripeto, no, noioso no, io riporto in maniera asettica e non ho idea. Noioso no, dirai che secondo me oramai questa rincorsa l'esagera sempre di più. Prima o poi farà del jumping and the shark, là, come si dice, insomma. Ma è un continuo salto di squadra. Simone sarà contento di sapere che suotato sito a Zaccagni sta entrando. Oh, bravo Zac. Ma io sono contento perché se lui fa un altro gol sono 100 milioni. Esatto, lo titolo dello almeno 50 60, mo per ora sono 35, ma almeno 50 60 milioni. Vogliamo parlare del fatto che a Napoli c'è Osimhen che ovviamente vuole andare via e non riescono a vendere. Non riescono a vendere perché 120 milioni di clausola non la vuole pagare nessuno, allora... Sì, giustamente. Cioè, il Manchester lo vorrebbe, però non vuole cacciare qui tutti. È la dimostrazione che De Laurentiis è cioè, come dire, è un po' esagerato, ecco, un diciamo po', un po' esagerato. Io non riesco, cioè tu immaginate nella stessa stanza Conte e cosa qui Sbrugge. Ma io me lo immagino, e mi immagino anche chi dovrà raschiare il sangue dai pareti dopo, perché finisce a botte, raga. Finisce come The Boys, ma arriverà a finire a botte. E nel frattempo siamo ripartiti. Vi ricordo che in questo secondo tempo l'Italia attacca verso la parte sinistra del campo. Infatti loro sono, gli svizzeri hanno subito invaso la nostra tre quarti, stanno per completare la prima azione, siamo pericolosamente nella nostra area di rigore, aspettiamo il cross, aspettiamo il tiro, gol, ed è gol. Eccolo qua, 2-0 e Buffon adesso terminiamo la partita adesso, basta, va bene così, ma si vedeva. Comunque, allora, io posso dire una cosa. Cioè, se la prossima intervista a Spalletti si innervosisce perché magari fanno delle osservazioni, delle critiche, cioè tu così ti sei giocato un po' una carriera, devo dire la verità, perché non fa lo stronzo, cioè quello che dico, si cazzo degli allenatori arrivano a un livello di arroganza tale che non si rendono manco conto. Poi prende due gol dalla Svizzera, regà, per noi, cioè, è pure un po' umiliante, diciamo. Ma anche prende un gol dalla Croazia dell'Albania, ma non è, cioè, allora l'Albania, 20 secondi. Vabbè, l'Albania lì è stato un errore, va bene, la Croazia un altro errore, quella nazionale lì era una nazionale forte, poi che abbia finito generazionalmente è un altro discorso. Ma la Svizzera che cazzo so, regà, capito? Tu immagina quelli che domani dovranno fare benzina in Svizzera. Regà, io sono convinto di una cosa, che se avessimo portato a questo europeo Paolo Rossi, ma non dico tanto, però i nazionali di 10 anni fa, oggi, cioè all'età di oggi, no, nel senso, li avessimo ripescati, ho detto giocate così, con l'età che ci avete, senza preparazione, vai, con la panza, avrebbero corso di più di sta banda di disgraziati. Vabbè, noi ragazzi vi diciamo così, boh, adesso la partita è ancora lunga, può succedere. Ne possiamo prendere ancora due. Può succedere ancora di tutto, possiamo prenderne due, possiamo farne due. Però vi dico così, giusto per annunciazione, che se ovviamente l'Italia, come insomma a questo punto non è così improbabile, dovesse uscire, noi seguiremo solo la finale. Mi sembra. Okay? Perché insomma la finale è stato ragionevole, anche è sufficiente. Sì, esatto. Quindi il 15 luglio, se volete, ci vi poi. Se poi arriva lo sponsor e ci fa ride. Ah beh, sì, noi, cioè, nel senso, se devo essere pagato si fa, se non devo come Spalletti pagato, mi mette a ridere, cioè tranquillamente. Esatto, è come Spalletti con la pubblicità, mi paghi, rido. Sì, tra l'altro nella conferenza stampa di ieri lui fa queste risate tipo un po' scattose, queste espressioni, cioè lui ha questi, come posso dire, compulsioni strane proprio a livello di faccia, fa delle cose strane. Io un personaggio che non ho mai capito particolarmente, devo dire, neanche mai stato simpatico, però vabbè, alla fine se ti dovesse far vincere qualche cosa, tutto sommato va bene così. Però rispondendo anche alla domanda dell'altra volta, poi ci ho riflettuto, Walter, alla cosa che tu hai detto, dice, vabbè, ma se poi alla fine noi veniamo eliminati, Spalletti se deve dimettere o deve essere cacciato. Beh, ricordiamo sempre che Mancini è andato avanti fino a che a un certo punto non è arrivata l'Arabia Saudita. Attenzione, gol. No, no, scusate, no, no, mi sono distratto. No, no, no, ma io non ho detto che deve, ok, però tendenzialmente. Poi, per carità, la mancanza di alternative è talmente mostruosa. Però io non lo dico perché l'Italia. Nel senso, io non sostenevo che la nazionale debba mandare via il commissario tecnico, sostengo che Spalletti si rompe i coglioni e se ne va, che è ben diverso. Ah, può essere pure, però diciamo che in linea massima devi concludere un ciclo di solito europeo e mondiale. Poi, se tra l'altro, se ci arrivi al mondiale, sì, esatto. Vabbè, cioè, voi ce faccio arrivare io al mondiale. Questo è un altro discorso, però diciamo che c'era una volta, per tradizione, l'Italia aveva i commissari tecnici che non erano gli allenatori della Serie A, o insomma erano proprio dei commissari tecnici proprio formati a Coverciano, no? Cioè, quindi c'è pure questa tradizione dell'allenatore iperpagato che metti sulla panchina che non serve a niente. Cioè, dovremmo ritornare un po' a ricostruire proprio la mentalità, la cultura sportiva che c'era una volta, e poi cercare i giocatori che, anche se magari tecnicamente non so all'altezza magari di tanti altri, ma che ci abbiano almeno un par di coglioni, cioè nel senso che si mettono lì e dicano voglio vincere, cioè cazzo, questi proprio non hanno, cioè non hanno carattere, ecco, questo non c'hanno, secondo me, proprio una nazionale che non gliene frega un cazzo. Cosa ne pensi? Però hanno dei tatuaggi bellissimi. Beh, quello abbiamo detto è obbligatorio, cioè nel senso non puoi giocare da professionista. Hanno molto gusto. Esatto. Vorrei sentire la canzone che la Svizzera ha presentato all'Eurovision quest'anno, così per prendere un po' di fiato. Sì, tanto. Magari becchiamo un altro gol nel mentre. Esatto. Mamma mia, inizia male, eh. Ça m'a sur mon épaule, le fil dans ma tête, pas la moindre cachette, c'est l'aube qui décline, derrière un champ de ruines, le moment de grandir, ne pas te retenir, je vois. Sta canzone non me lo spiego. Ammazza che palle. Che il problema è che se lo mettono lo yodel non funziona. Esatto, è pure in francese, credo. Cioè, tutto peggio del peggio. Cioè, proprio il non plus ultra della voglio perdere. Io spero, ma a un certo punto, mentre c'era la canzone, gli svizzeri ci hanno anche provato a darci una mano. Esatto. Hanno provato a fare l'italiata, cioè se volevano fare un gol da soli, ma poi vabbè, niente. Vabbè, no, raga, che dire. E che vuoi dire? Diciamo, insomma, che cosa facciamo sabato prossimo, ragazzi? Ah, io non sono qui, quindi fate quello. Non ci sei proprio, quindi no, non ci sono. Guardi, dobbiamo organizzare qualcosa per sabato prossimo. Beh, vedremo, dai. Qualcosa faremo. Vabbè, qualcosa ci inventiamo, insomma. Comunque, vabbè, niente. L'unico che in qualche modo la sta prendendo un po' sul serio e sul personale continua a essere Donnarumma. Gli altri proprio sono completamente assenti, cioè non hanno nemmeno reazioni morali. Cioè, comunque, raga, io se entravo non c'è nemmeno la reazione di rabbia. Se entrava sto coda a Svizzera mi sarei messa a ridere, cioè nel senso. Attenzione, tanto avevo perso comunque, però c'è, cioè, uno si mette a ridere. Vabbè, si mette a ridere. Almeno trovi l'elemento meno drammatico all'interno di un contesto drammatico. Ma drammatico mi sembra un termine un po' esagerato, però. No, beh, sì, oggettivamente. Cosa dicono in chat, Walter? Cosa dicono? Siamo già oltre dove saremmo dovuti essere, perciò. Avremmo dovuto essere dove siamo noi. Allora, in chat niente, dici. Allora, vediamo un po'. Intanto ci ha raggiunto in chat anche Black Eyed, che saluto. Dice, tutti in chat. Oggi, vedi, però vedi, sì, la cronaca alle 18 di sabato, da questo punto di vista, come dire. E giustamente, siccome allora, quando Black Eyed ha acceso lo streaming, evidentemente stavamo sentendo quel bellissimo brano svizzero, si domanda, ma che è, la nazionale cantanti? Guarda più. Che forse facevamo più bella figura con Morandi, Ruggeri e Tozzi in campo. No, so, ma se Morandi, Ruggeri e Tozzi non credo giochino più, però Morandi. Beh, ormai poi c'ha 70 anni. No, infatti no. Però tutto sommato è un uomo che si tiene in forma, cioè io ho ammirazione per Morandi da sto punto di vista. Sì, no, ma poi c'ha sto carattere sempre ottimista, cioè si è ustionato una mano come un sollacchione, l'ha presa a ride, insomma. E che deve fare? Tanto non ci faccio più nulla, tra cose del genere. Ma questo lo dici te. Perché ce n'ha due, ce ne userà l'altra. Poi ricordate sempre che potrebbe andare. No, io allora, quando si parla delle mani dei Morandi, io starei zitto, palanche, perché esatto, sì. Perché c'è poi in forno alle pizze quelle grandi. Esatto. Quindi se con una fa per due, comunque. Diciamo che se te dà uno schiaffo, ancora oggi, magari lo senti, no? Da quel punto di vista. E poi è comunista, insomma, ricordiamo che Gianni Morandi è comunista, e questo per me che mangia bambini dal 1964. Se no non sarebbe così in forma, no? Sarebbe così comunista. Morandi è famoso per avere altri gusti alimentari. Esatto. Comunque io questa cosa non lo so da dove nasce. No, non lo so, però era tanto per dire la classica vaccata internettiana. La vaccacata. Che insomma, a proposito di vacche, mi viene in mente la Svizzera. Però la pagliata gli deve piacere, di quello sono sicuro. Ma sì, ma quella piace a tanti. Anche però. Senza polizia. Ma anche a me piace la pagliata, però. E questi cinesi? No, chi so. Non lo so, sì, c'è un cinese nella delegazione, in mezzo alla delegazione di delegati della delegazione. Questi se li compriamo tutti, secondo me la vengono delegazione con delegazione dei delegati di deleganti. Eh sì. E vabbè, ma sì, perché poi secondo me probabilmente sai, sarà il signor Bid, visto che Bid sta sponsorizzando tanto questo europeo, uno dei main sponsor, appare dappertutto, ogni 2x3 sui cartelloni, ovunque, magari è Luigi Bid. Ma poi sai quanti agenti di mercato saranno in giro questo cazzo a comprarsi giocatori, a vederli, quanti scout. Intanto l'arbitro Collina dice: alzate che te devo far vedere una cosa. Alzate cornuto, ma anche il sangue mi ha fatto uscire, quindi becca del cartellino giallo. Eccolo qua. Vabbè. E niente, Mancini è stato ammonito. Che strano, io devo dire strano. Io non penso che esista una partita nella quale non sia mai stato ammonito. No, però onestamente, guarda, questo intervento in particolare, vabbè. Per carità. No, però dico, secondo me è un achievement che lui ci tiene. Sì. È un po' come Michele che prende multe su tutte le città d'Italia, lui deve essere ammonito. Ah, Michele dice: vai in un'altra città, una nuova città, ci va apposta in macchina per prendere una multa. Assolutamente. Infatti, continuano ad arrivare multe da tutta Italia. Beh, le potete collezionare domani. È un achievement, lei ci fa, vuole platinare l'Italia da questo punto di vista. Vabbè, per carità, che senso, chi siamo forse noi? Forse dei pagacci, cioè, compro il platino perché per platinare tutto. Se lei prende su tutti l'importante è che prende quelle che non tolgono punti, se no all'achievement glielo fanno sulla patente, non è carino. Non lo so, non mi pare. Hai sbloccato un nuovo badge, patente ritirata. Tutte divieto di sosta, di solito. Ma come cioè, vabbè. Tutte divieto di sosta, perché lei a un certo punto dice, vabbè, io parcheggio. Comunque, ragazzi, che vi devo dire? Vediamo un po'. No, in chat c'è sgomento generale, c'è rassegnazione. Lo sgomento è bellissimo. Cioè proprio. Guardi, raccontaci quello che sta succedendo. Dai, dove? In campo? In campo. anche fuori dal campo. Fuori dal campo c'è più interesse, secondo me. Ci sono dei gatti che vanno in giro. C'era un gatto che faceva capolino che è andato via. No, in campo ci sono giocatori della Svizzera. Ma che ci stanno i gatti dei fuori? No, non stiamo dentro. Che si stanno annoiando anche i giocatori della Svizzera. Perché cioè, vabbè, ma mo che dobbiamo fare per altri 3-20 minuti? Cioè, due palle. 30 minuti no, ragazzi, di palle. Vi leggo da Twitter il commento di un utente che poi conosco, perché è quello. Il lui della coppia da cui ho adottato la mia gatta, che dice: credo che stiamo per scoprire cosa si prova a essere inchiappettati con l'Emmental. E devo dire che questa cosa c'ha un cotoblerone anche volendo. Ma io sono abbastanza convinto che tanta gente già lo sapeva, sì, so. Buffon lo sapeva. Ho questa sensazione, diciamo così. Vabbè. Ci hanno fatto il toblerone, come si dice. Beh, comunque sì, bella partita, complimenti. La noia, cioè... Ecco, Bid, tutto il campo tappezzato di Bid. Ma che cos'è questo Bid? Bid è un marchio di Bid Your Dreams, è un marchio di macchine elettriche cinesi che si sta imponendo, che comincia a arrivare anche in Europa. Ah, la... macchine elettriche, cioè automobili. Sì, esatto, diciamo tu che lo sai che io lo leggevo al contrario. Più temibile, uno più temibile dei quello dei Tesla. L'avversario di Tesla, ho capito qual è, sì. Dicevi tu, scusa, Marco? Lo leggevo al contrario, perché di Battista? No, perché quel carattere sembra come se fosse speculare. Se tu ci fai caso, è speculare. Se tu lo leggi dall'altra parte, tipo CE, una cosa del genere, CYE. Vabbè, quello si chiama Ictus, però. Adesso che ricompare. Adesso c'è il cartellone, immagino... che è Strauss, ma senza levi. Ah, no, ok. Strauss Workwear, quindi abbigliamento Strauss, da sì, lavoro. Strauss. Per me è Levi's. Chi era Strauss? Oppenheimer. Ah, bravo. Il mondo è pieno di Strauss, comunque. Questo brutto Strauss. Scrivono in chat, so, c'è fermento. Cioè, fino a che l'Italia pareggia. Yeah, però come l'Italia prende cose, si infervorano tutti. È una cosa... Niente, mi cazziano dicendo che non fa ridere la battuta dell'Emmental, ma non l'ho fatta io infatti, l'ho riportata. Infatti, anche poi non è manco una battuta, poi tutto sommato, cioè nel senso che ci stanno inchiappettando. Esatto, è quello che sta succedendo. E poi ribadisco, secondo me qualcuno già lo sa, insomma, qualcuno ne ha già consapevolezza di tutto questo. E la cosa bella è che la Svizzera continua, insomma. Sai che c'è, non c'è un cazzo di moto d'orgoglio, non reagiamo. È quello, bravo, non c'è la personalità, non c'è. So cotti, la cottezza. So a cottimo, è quello il problema. Anche a cottimo, sì. Va bene. Aspetta, va bene. Che c'è un tentativo di avanzare sulla tre quarti. Ma sì, ma sì. Madonna. Ma sì, ma. Ma che te frega? La verticalizzazione proprio. Ma che tu fa fare? Boh. Che è un po' quello che diciamo noi quando ovviamente c'è qualcuno che ci ascolta e dice: ma chi te lo fa fare? Esatto, comunque gli svizzeri attualmente giocano con un 5-4-1. Ma sì, perché? D'altra parte, dopo che hai fatto due gol, che fai? Perché insomma, ti chiudi un po'. Infatti, ma quella strategia del catenaccio con 10 giocatori nella tua metà campo. Ma perché a me Elisa appare col nome e il cognome? Così, giusto per... Chi è Elisa? Non lo so cosa avrà impostato su Telegram, se c'è la rubrica, io. Magari scopri che la conosci. No, lei. No, come c'è una rubrica? Chi la conosce? Scusa. Non lo so. Scusi, allora. Ma lei chi la conosce? Vabbè, sì. Mi conosce. No, però trovavo. Siccome questa cosa è successa anche con Gab, che sarebbe il fidanzato di Pixel Deb. Non saprei dirvi. Secondo me dovrebbe controllare l'impostazione della privacy della su privacy, Telegram. Della privacy. Mi raccomando. Che sono i russi, si inculano tutto. No, cioè, perché qua sapete che ogni tanto entra qualche bot, neanche ci saluta, legge tutti i nomi e se ne va. Sì, esatto. Tra l'altro l'altro giorno è entrato un ragazzo che si chiama Simone. Sì, però sembrava vero, io non mi sono... Sembrava vero perché in realtà ci aveva scritto il giorno prima su Telegram. Su Instagram, scusa, dai, io me non avevo okay. Sti cazzo di gram. C'era proprio scritto su Rantem Radio che dicendo che noi che Rantem Radio era la più bella scoperta che aveva fatto durante quest'anno. Ah, figo. E poi è entrato, io gli ho detto: vabbè, ciao, col buon vento. E ha buttato dentro spam. No, vabbè, ma cioè, è ancora lì dentro? O... Non lo so, non ci ho guardato. Perché, ragazzi, poi è tanto che non facciamo la conta del numero vero, di utenti sul veri e quelli fatti. È meglio che non la fai. La 154. Troppo pochi. Ma non eravamo 200. Infatti, secondo me molta gente se n'è andata da quando. Non so, una 200 non lo so se ci sono mai stati, eh. Davvero? Boh, non lo so. Io non ci guardo perché in realtà poi mi rendo conto che lo sforzo incredibile che facciamo per il progetto di Lantime Radio non è ripagato da niente da nessuno, se non ovviamente a quelle persone veramente affezionate che poi alla fine ci fa piacere perché cioè, ci fanno sentire che gli dispiace quando non ci siamo, insomma. E quindi noi continuiamo imperterriti in questa cosa molto familiare che facciamo. Ma come mai l'arbitro in questa partita non ha più il fratino dell'ANAS tutto giallo ed è nero classico come una volta? Penso che sia per via delle maglie. Perché è pomeriggio, dici? Boh, non lo so, non c'ho idea. No, perché se guardi, non lo so. Cioè... No, però c'hanno le maglie di tutti i colori, cioè hanno gialle, arancioni, viola, verdi. E poi in questo caso, magari per praticità, l'hanno messo nero, visto che quello è azzurro, quell'altro è rosso. Buonoso, cioè, non so il criterio con cui si sceglie la divisa dell'arbitro. Lo possiamo chiedere a Gemini se vuoi. Ho paura di cosa potrebbe rispondere. Infatti, perché a volte dice cose un po' tipo a caso, ecco, diciamo. La Svizzera si sta preparando a farci il terzo, o forse ce l'ha anche già fatto, ma non lo sappiamo. E non ce ne siamo accorti. Esatto, vediamo. Non se ne è accorto neanche la difesa italiana, probabilmente. Ah, dici giustamente per una questione spazio temporale. Però magari in chat qualcuno ce l'avrebbe detto. Probabilmente. Tipo, che ne so, gol della Svizzera. Lo so, ragazzi, lo so. Vediamo. Il problema è che anche qui la tecnologia è organizzata in modo tale per cui dobbiamo spostare lo sguardo da uno schermo all'altro, però in chat non si dice. Prova a fare lo sborone, ti ha detto male. Ah, che vita! Big sbor, niente. Beh, siamo a sbor one, tu quello volevi dire, ok. Il prossimo film di Guerre Stellari. Beh, ma ti pare che non ci sarà il remake porno? Sempre la rule, com'era? Sì, la rule 34 di internet. Che se esiste la versione porno. Quindi, mazza, tentativo. Qua, la Svizzera, qua non lo so, vuole far Brasile, oh, ma datevi una regolata. Ma come vi permettete? Ricordatevi sempre che siete svizzeri, cioè, cazzo, andate a fare un orologio. Io poi quando succedono queste cose, tipo che ne so, Italia-Svizzera e l'Italia-Svizzera perde, la mia mente, caro Marco, ripercorre sempre, va diciamo, pensa al povero Stefano Biggio, che insomma purtroppo devi subirli, perché lui vivendo lì... Si dovrebbe trasferire in Germania, se va in Germania non li subisce, per ora, poi... Che è successo? È bello questo stacco del loop. Vero, strange. Fatto col culo proprio. Però, vabbè, insomma, noi ci accontentiamo. D'altronde abbiamo finito. Questa è la penultima puntata, quindi. Perché la penultima? Ah, per racconti la finale, certo. Eh sì, certo, la finale comunque. Quando sarà la finale? Il 15 luglio. Il 15. Dovrebbe essere il 15 luglio. Perché il dato di Cianocchio. Perché 15 giugno, 15 luglio. Beh, insomma, non è che manca tanto, mancano 15 giorni. Beh, siamo esattamente a metà, sì. No, un po', poco meno, diciamo, perché oggi è 29, no? Sì. Oggi è 29 giugno. Così, per dimostrarvi che siamo in diretta, anche se non sembra. Ma quello che mi sono sempre domandato, Marco, ma insomma, in un terreno molto bello, perché paesaggisticamente incredibilmente bello, la Svizzera, però insomma, mi viene di asperità, di montagne, la Barbabietola. La Barbabietola non cresce direttamente il cioccolato, proprio estraggono la terra. Vabbè, che c'entra la Barbabietola col cioccolato? Che è dolce, no? È da zucca, lo zucchero. Okay. Oppure loro magari fanno la Barbabietola nei bunker? Perché, ma perché? Ricordiamo no, questa cosa dei bunker. Nei bunker. I funghi sono belli freschi. La muffa pure. La muffa. Loro potrebbero avere una grandissima. Hanno tante di quelle mucche. Potrebbero una traduzione. Se avessero anche tanti maiali, una tradizione di salumi con tutti quei bunker che hanno. Però li sprecano così. Perché per chi non lo sapesse, c'è una legge in Svizzera in cui però ci deve essere praticamente un bunker per ogni abitante. Allora sì, ne parlavamo, però a quanto pare, da una cosa che abbiamo scoperto recentemente facendo delle ricerche, il paese con il maggior numero di bunker in realtà è l'Albania. Proprio perché durante il regime comunista era solo in disuso. Sì, esatto. Esatto, il dittatore comunista albanese era talmente in fissa che prima o poi sarebbe stato invaso che aveva disseminato completamente tutta la nazione dei bunker. Immagino poi insomma con che qualità costruttiva. Il problema è che la Svizzera ne è ancora convinta. Esatto, vabbè, ma loro dal loro punto di vista vanno bene. Poi, che poi sono bunker che servono, diciamo, a una sopravvivenza nel brevissimo periodo. 20-40 giorni. No, che 20-40? 3-4, nel senso, non hai, a parte alcuni molto grandi che possono contenere scorte idriche maggiori, però diciamo quelli individuali che si trovano sotto i condomini eccetera non sono strutturati così. Poi ci sono dei mega bunker anche da 2-3 mila posti, e quelli possono permettere, diciamo, un pochino una sopravvivenza un pochino più lunga, ma di fatto a che servono nella realtà? Cioè, puoi sopravvivere a un'esplosione atomica, ma non a un chill out. Beh sì, purtroppo. No, io da quello che... Che cos'è poi il chill out? Certo, è quando praticamente esci. Stai con il chilli. Stai tranquillo. Vabbè, sono uscito per dare il culo. No, però chill out. Però devo dire che... Quando si deposita... Non è il fallout quello. Al fallout. Sì, il fallout, sì. Comunque... Mi pareva di fare pubblicità se dicevo fallout. Invece... Sai, insomma, sempre grande amore per quella... Per quella cosa, e no, stavo a dire che in realtà poi alla fine il costruttore del bunker che hanno intervistato, che ho visto io su YouTube, lui costruiva bunker che metteva scorte per una ventina di giorni, perché dopo una ventina di giorni, in teoria, però comunque poi alla fine la merda la becchi uguale, però il grosso te lo sei levato, diciamo così, cioè il grosso te lo sei levato, poi dopo ci sono le radiazioni, allora tu devi cominciare a cercare di spostarti da bunker a bunker. Tra l'altro c'è un bellissimo libro, veramente inquietante, che si chiama La lunga notte del coniglio, che è molto, molto concentrata la storia di queste persone che sanno che ci sta per arrivare un'esplosione nucleare, quindi si chiudono tutti nei bunker, e questi bunker sono tutti collegati. Vogliamo tra loro vivere questo calcio d'angolo per l'Italia, anche se ormai sarà già successo da 2 minuti, vediamo. Sì, vediamo, calcio d'angolo. Ho visto rotule che volavano. Niente. Anzi, ora ci fanno anche il cappottone. Dai, rotule che volavano, è bellissimo. Comunque, vabbè, alla fine, insomma, molto, molto horror. Come... Se vi capita, ragazzi, cercatelo. La lunga notte del coniglio, un libro da leggere. Ma è un libro che narra l'attesa di un evento atomico? No, narra proprio praticamente queste famiglie di un quartiere residenziale dove ci sono questi bunker che non solo sono stati costruiti nel quartiere residenziale, ma sono anche collegati fra loro. Uh-huh. Praticamente, quindi diciamo che in un certo senso poi cominciano a interagire fra di loro, poi cominciano a fare le prime esplorazioni, ma succedono delle cose veramente terribili che prescindono, non so. Bello, un bel libro veramente, ma mi ha lasciato veramente di merda, non me lo sarei aspettato. La lunga notte del coniglio, esatto, segnato. E intanto qui una collina continua ad alzare braccia vestito di nero, io vorrei parlare. Sì, brutte cose. Delle rimembranze che non... Un brutto passato che non vorremmo ricordare. Entra Vargas al posto di Reader, Acrobat Reader. Però Reader potrebbe essere vagamente svizzero. Vargas un po'... No, Vargas esce perché è quello di cui parlavamo prima. Raider Zuber per non va abbracciate, se no fate come i croati. Io ve l'ho sempre detto, si festeggia alla fine. Vabbè, Simo, vabbè, dai, se voglio crede, ma insomma, si festeggia sempre alla fine. Io lo dico perché ho visto cose nel mondo del calcio che voi umani non potreste nemmeno immaginare. E le stiamo anche vedendo. Questo è normale. Questa è una partita normale di una che perde 2-0 la squadra. Cioè, la Svizzera è una cosa molto veramente usuale, che quando pareggia al 98esimo, anche quella è una di quelle che sì, però io ho visto rimonte da 2-0 a 3-2 negli ultimi 3 minuti di partita, sì, cioè, nel senso, purtroppo nel calcio quando si innesca il meccanismo, attenzione, chi c'è, un meraviglioso cross, è bello perché se facciamo un cross in aria non c'è nessuno. Sicuro che non c'è nessuno, è matematico. Infatti mo, secondo me uno di quelli del pubblico entra, cross, ci penso io. E non vuoi sbagliare cross, Liverani. Mamma mia, che quelli erano i tempi del calcio. Che cazzo di fine ha fatto? Liverani? No, Liverani no. Ah, è Serse? Serse Cosmi. Ma credo che continui ad allenare, no? Ma che? Ma cioè, penso sia stato pure mezzo radiato. Vado a cercare per scommesse, non lo so, però è come Dalio Rossi. Vi ricordate quando allenava la Fiorentina, poi ha ammazzato le botte quel giocatore che voleva entrare? No, no. E quindi l'hanno radiato. Beh, purtroppo, peccato, perché Dalio Rossi era forte come allenatore, però mi sa che quel giorno l'aveva perso un po' la testa. Succede. Ma l'ha picchiato tanto? Insomma, il bel problema è che durante la partita in diretta Sky, sai, sono belle scene da vedere, Vabbè. un po' dare uno schiaffetto al giocatore, cioè un buffetto così. Cosa se gli ha dato 3-4 allora anni? Di recente sì, ci informi, allenato vabbè, il Serse Cosmi, Serse Cosmi. Okay. Diciamo, ti do gli ultimi anni che ha cambiato una squadra all'anno. Il 2019 ha allenato il Venezia, il 2020 ha allenato il Perugia, quindi è tornato un po' agli antichi a casa sua. Poi nel 2021 ha allenato il Crotone e nel 2022, non so se sta tuttora lì, ha allenato una squadra di calcio croata che si chiama Reška. Kravoški Nogotemi Club Reška. Vabbè, comunque questo ti dice che è sparito dai radar, insomma. Vabbè, sì, Poi ricordiamo che Serse Cosmi è della Roma, lo sapevi, sì? No. Era tifosissimo della Roma. No, questo non lo sapevo. Sì, sì. Infatti, quando non so quale ultima partita ha giocato all'Olimpico. Attenzione, mamma mia che palo, mamma mia che palo. Però ci sta dicendo male. Secondo me domani che sfortuna. Che sfortuna, sui giornali, che sfortuna. Che Italia sfortuna. Sfortunata. Porta stregata. Porta stregata. Non abbiamo mai tirato un porta. Come l'ha preso Dubani? Certo, uno ha preso la Svizzera, però è particolare. Cioè se entra fa, Leggerissimo fuorigioco di questo giocatore in basso, anche, e quindi non sarebbe stato valido, assolutamente no. Però esce Cristonante, Pizzi. Che te lo ami tantissimo, poi è il tuo giocatore preferito. Sì. E adesso chi cristonerà in campo? Allora io direi Michela. Manda il messaggio a quello della pizza, di che può. Ci abbiamo ripensato. Può anticipare tranquillamente. Shuren dice: ma non era morto Serse? Dipende quale Serse dici. Serse, no, Cosmi, no. Serse Cosmi, no, non è morto. Uno è morto 4.000 anni fa. No, ma l'hanno anche intervistato recentemente. L'ho visto da qualche parte, però. Raga, non è mai stato nessuno Serse Cosmi, eh. No, vabbè, però. Solo uno che comunque ci ha avuto la fortuna di entrare nel calcio che conta, perché ha fatto quella escalation col Perugia, che poi insomma ha visto il Perugia pure che fine ha fatto, vabbè, raga, però il Perugia di Gaucci passerà alla storia, lui con quella bionda super figa che si portava dietro, chissà se la pagava solo per stargli seduto accanto, boh, non so. I soldi fanno una brutta roba. Tra l'altro stavo a vedere un'intervista di come si chiama il giocatore del Bari che poi è passato alla Cassano. Roma, Cassano, che lui ha detto, cioè io, vabbè, lui devo dire che ha confessato, forse poi sai la maturità un pochino, poi cioè ha fatto una bella intervista, una bella analisi di come si è comportato lui nella sua carriera in generale, no? E poi vabbè, il non preso ultra è stato quando sta al Real Madrid, io pensavo di essere intoccabile, di essere un dio, cioè nel senso, vabbè, poi ci è arrivato anche lì giovanissimo, esatto, perché i soldi sono arrivati subito, io ho perso, un anno ho comprato 10 macchine, poi andavo a donne in continuazione e poi lì mi ero reso conto che queste donne venivano con me perché io ero un calciatore, certo, importante, non perché era un intellettuale, il dubbio no, nel senso, ma neanche perché era un bel ragazzo, perché lui diceva, io, cioè nel senso, nella mia vita non mi si è mai cagato nessuno perché ero uno scorfano, manco mamma mi diceva che ero bello, e beh, d'altra parte, con tutto rispetto, dicendo, e quindi poi alla fine, cioè quindi mi stai dicendo che i giocatori rimorchiano con le fregne perché sono giocatore? Ma secondo me deve essere non perché il concetto va anche un po' per altri motivi. Non è perché è un calciatore, ma perché è un calciatore ricco. Esatto, ricco e in quel momento anche molto molto in voga, cioè famoso, era comunque sulla cresta dell'onda lui, cioè per carità ha fatto una carriera. Sta entrando Ford Sierra, ragazzi. Ford Sierra? Sierra, ok. Ed esce Duan. Embolo, no, mi fate uscire Embolo, ma porca puttana. Io faccio il tipo per la Svizzera. Secondo me la Svizzera arriva in finale. Ma no, dici? Ragazzi, non ci sarebbe più religione. Beh, considerando il tabellone che vale per noi, vale pure per loro che ci hanno battuto. Cioè, quindi, alla fine, se arrivano in semifinale con l'Inghilterra, giocano. Bisogna vedere quale sarà il prossimo avversario, però insomma. Poi, comunque, io ho visto una cosa. Su tutte le cose, in tutte le partite che abbiamo giocato, che gli altri ci hanno messo il doppio della velocità e dell'energia. Sì, no, ma ripeto, noi lo diciamo da ogni diretta. Quindi questa cosa deve significare. Noi siamo arrivati là perché ci dovevamo andare, se non ci andavamo nemmeno. È per quello, se tu ci pensi, che io sono tre puntate che dico sarebbe molto più dignitoso se non ci presentassimo. Vabbè, ma tu lo dici comunque. E perdessimo 2-0 a tavolino. Adesso il 2-0 c'è, però non è a tavolino. A tavolino, dai, ma poi. Cioè, No, che lo dovevo dire prima, entro il quinto minuto della partita, perché sennò non funziona più. Non vale non più. Porta più non bene. Vale più. Ok. E vabbè, comunque, quanto manca, ragazzi? Troppo, manca siamo troppo. Intorno al 75esimo, se non ricordo male. 75esimo, dobbiamo trovare qualcosa. E quando è così, ho 8 minuti di recupero. No, 78esimo, beh, insomma, io 8 minuti di recupero in questo caso non li darei, mettiamola così. No, anche se. Anche perché tecnicamente ce ne servirebbero 16. Sì. No, poi sono troppo, si stancano troppo. 16 minuti di recupero. 16 minuti è abbastanza inverosimile, però diciamo che secondo me 8 minuti ci fa due cose comunque. Attenzione, calcio d'angolo per la. Parlavo della Svizzera, ovviamente. Cioè. Per la Switzerland o Helvetia Confederation. Che poi è brutto essere presi in giro da Confederazione Svizzera. Capisci quanto è contro natura essere presi per il culo da quelli che prenderesti sempre per il culo? Cioè, nel senso, loro sono proprio quelli da bullizzare. Vabbè. E invece diventeranno. Allora, loro per me vanno pure 10 partite, sono sempre svizzeri. Cioè, non mi cambia. Questa cosa non la possono cambiare. Per quanto loro sicuramente vogliessero. Beh, oddio, io non so se uno svizzero vorrebbe essere diverso da svizzero. Ma guarda, l'unico vantaggio che c'hanno è il tenore di vita, cioè, tutto sommato, perché poi alla fine famosa capisse. Vabbè, ti ripeto, sono una società un po' rigidina, cioè, vivono un po' con la scopa in culo, però tutto sommato stanno bene. Una civiltà ordinata, pulita, educata. Mi sembra che vivano nello sconforto e nella tristezza, insomma. Questo non lo sai. No, vabbè, cioè, oddio, non mi. Allora, ripeto, non ti trasmettono allegria, cioè, come fa l'italiano tutto meglio. Questo estro però, e questa gioia di vivere, però, no, non lo so, insomma, però. E lo fanno vedere, c'hanno il cioccolato, i soldi e le vacche, e non necessariamente animali. Quindi, che cazzo gli manca? Vanno tutto bene, sono contenti. Questa demagogia. Ma sì, cioè. Non lo so, Marco, serve il maiale per non avere problemi nella vita. Ci hanno pure quello. Un bel maiale d'oro c'hanno. Non a caso, la più grande offesa che puoi fare a un contadino, perlomeno qui. Te posso pure il maiale. Te posso il porco. Sì, ce lo denghi, perché mi hai detto. Sei già sfigato. Mi fa male una costola. Non so se sta per nascere Eva. Non lo so. Andiamo a Berlino? No, non direi. Siamo già a Berlino. In questo momento siamo a Berlino. Ma torniamo. Siamo a Berlino e se. Siamo a casa. Sì. Quindi noi che andiamo a Berlino, torniamo da Berlino. Che forse esatto. E domani gli inglesi ci fanno football's coming home. Vabbè, intanto li abbiamo battuti e gli abbiamo fregato l'europeo. Poi possono. Quella è stata la più grande. A posteriori possono provare a sfotte quanto gli pare, ma. Io però dopo voglio sentire le dichiarazioni di Spalletti, ci deve dire, ci deve spiegare. Secondo me, ragazzi, Spalletti tirerà giù un veleno, se la prenderà con qualunque cosa. Sì, con qualunque cosa, pure con l'autista del pullman che ha sbagliato a mettersi sulle strisce. Comunque in chat ci perché poi sappiamo che non è uno che rosica. No, per carità, la prendono sempre così. Sia lui che il suo amico. Insomma. Allora, Mario Trani fa pubblicità politica e non capisco perché. E lo salutiamo, però, perché ci ha raggiunto. E poi dice: ma poi Michele è andato al lago. No, Michele sta qui. Semplicemente non gli andava di partecipare a questo scempio. E le si può forse dare torto? È tutto sommato come biasimarla. Esatto. Vabbè. No, so, ormai c'è mestizia, c'è proprio voglia solo di farla finita, ecco. Con la vita, però. C'è voglia di pizza più che altro. La pizza sì, però purtroppo. Pensate sempre a magnà. Purtroppo c'è stata questa cosa che. Purtroppo. Nel dubbio che fossero arrivati i tempi supplementari, abbiamo detto di arrivare veloce. Ragazzi, ma c'è Ignazio in tribuna lì, c'è Ignazio con la faccia, con la solita faccia Ignazio. Forse è per quello che abbiamo perso. No? Anche. Domani lo ci è. Vabbè, ho capito, Marco. Vabbè, l'ictus, Marco, dai. Non è l'ictus. Ictis, sì. E mica solo quando c'è la puzza di fumo, ictis. No, sì. Quello è un'altra cosa. Ah no, quello è il tumore direttamente, sì. Giusto. Hai ragione. Beh, questa partita ci sta un po' stufando. Devo andare noiosa, a cercare dei contenuti. Voi parlate. Ma sarebbe noiosa anche se stessimo vincendo 10-0. Sì, cioè, sì. Veramente la noia. Poi c'è. È la cumbia della noia, direbbe Angelina. Però praticamente adesso sì, l'Italia sta diciamo, tenendo palla proprio perché gli svizzeri si sono rotti il cazzo di attaccare. Cioè non è perché sono improvvisamente diventati bravi giocatori italiani, no, cioè proprio noi ci siamo rotti il cazzo perché dobbiamo correre che vogliamo arrivare in finale. Tanto non segnate manco se ci fermammo da soli. Però c'è un contropiede, infatti poi si ferma, dice, no, vabbè, già mi sono rotto il cazzo di correre. Questo tira, Attenzione, Madonna, poteva essere il terzo. Essere il terzo. Per fortuna la palla ha preso una traiettoria opposta alla porta, ma poteva essere il terzo. A segno che Auschwitz non gli devi cagare cazzo, perché comunque lì per lì Auschwitz. Io ho capito Auschwitz anche io. Scusa. Anche Auschwitz non gli devi cagare cazzo. Tutte le volte che leggo Cambiaso sulla maglia torno indietro di 20 anni. Cambiaso, penso Cambiaso, sì. Vabbè, ragazzi, no, come posso dire? Sarà per la prossima generazione calcistica, dai. Io non lo so se e quando torneremo ad avere una delle giovanili, dei vivai dai quali attingere con buoni atleti, con buoni giocatori, soprattutto con una mentalità. Ma va ancora di moda a diventare calciatori? Aspetta, che sta entrando Michela, dice. La gamba di italiana di volley femminile ha vinto. No, ce ne frega. Non ha vinto i mondiali, ha vinto la World Cup, che è diversa. Ce ne frega il cazzo. Via. No, sono due cose diverse. Lo trovo diverso, però per i poveri. Però comunque, vabbè, sempre un bel risultato. Julio Velasco è tornato e l'Italia è tornata a comandarsela. Ma è davvero Julio Velasco è l'allenatore non potremmo prenderlo come neanche tantissimo. Come allenatore della squadra di calcio, Velasco. Allora, Velasco, dopo aver vinto tutto con la nazionale maschile di pallavolo, era diventato il commissario. No, era diventato il direttore sportivo della Lazio. Sì, me lo ricordo, ma in maniera assolutamente impalpabile. Cioè, sì. Non è il tuo sport, non è che ma non solo, ma secondo me Gragnotti andava, comprava i giocatori e lui si incazzava perché a me non mi ha detto niente, io non so niente, la gente mi fa le domande e mi piano per culo. Allora sì, diceva, scusa. Vabbè, mi ricorda anche più di recente un po' la storia tra Lotito e così Alex e Tare. Che insomma, sì, vabbè. Anche lì non ho capito com'è che Tare non l'ha lasciato sfonnato sull'asfalto a un certo punto a Lotito. No, però Tare una volta stava per lasciare sfonnato sull'asfalto un giocatore. Vabbè, il grande Kozak, che praticamente proprio l'ha appiccicato al muro tenendolo per collo, poi dopo però si sono chiariti. Ricordiamo Kozak. Il tenente Kozak, esatto. Vabbè. Kozak, che praticamente si diceva che giocava gli scarponi della guerra. Quindi immagina insomma la qualità. Sì, vabbè, faceva numero lì, sai. La scuola di avere forse la panchina lunghissima come Goku praticamente, poi si toglieva gli scarponi e diventava un fenomeno. Sì, perché gli serviva, esatto. Beh, è tipico allenatore quasi sia da Oli e Benji che da Super Boys. Cioè, ti faccio allenare con 50 kg di sovrappeso a ogni piede, così poi quando giochi la leggerezza ti fa essere. Faccio giocare con un pallone di marmo, esatto. E con la palla medica, senza esagerare, con la palla medica a piedi nudi. Colpi di testa come se ci fosse un domani. No, Fagioli, ed entra Frattesi. Pasta e Fagioli. Ma allora, aspettate che ho trovato una cosa carina, ma vediamo, voi intanto parlate. L'Italia sta pressando per demerito, cioè per demerito, perché gli sta facendo fare tutto la Svizzera. No, ma io per permettervi. Non c'è nulla. Perché c'è da dire che comunque sono un popolo umano, capiscono l'imbarazzo. Esatto, cioè almeno uno ve lo vogliamo far fare, ma non è che possiamo fare proprio tutto noi. Perché in fondo, secondo me, il rispetto col fatto che noi siamo l'Italia, loro ce l'hanno, sta cosa. Cioè, nel senso, non può essere che stiamo a vincere 2-0 contro l'Italia. Però se la sentivano, insomma, bastava poco analizzando come giocava l'Italia. Madonna, raga, guarda, altro mega contropiede loro. No, vabbè, ma non proprio. No. Secondo me, nella prossima la qualificazione mondiale, tutta l'Under 21, tutta salita del livello, insomma. Comunque, volevo dirvi una cosa importante, che forse voi non lo sapete, ma questo ve lo dico anche per farvi prendere un po' di fiato, perché adesso facciamo il rush finale per vedere questo finalone incredibile di partita. Che Rita Pavone, Svizzera. Partiamo molto male. Esatto, non so se lo sapeva, lo so, però ha fatto la ricerca più basica possibile del mondo. È famosa Svizzera. No, Rita Pavone ha cantato una canzone che si chiama La Svizzera. Quindi adesso Svizzera, ce la sentiamo. La Svizzera è bel gran capolavoro. Ma la conoscevi? Certo che la conosco. Ah sì? No, non lo sapevo, io non l'ho mai sentita. La Svizzera. Vabbè, ma che è sta roba? Vabbè, dai. Mario Trani intanto chiede: ho finito di lavorare, chi ha vinto? Sta vincendo la Svizzera 2-0. Chi ha fatto palo? È questione di pochi minuti per formalizzare il roster, ufficializzare. Vabbè, quindi noi... Io aspetto solo di scoprire i minuti di recupero, guarda. Noi giustamente ci siamo chiesti, abbiamo chiesto a Marco come potesse essere a conoscenza di questa canzone. Che io, noi... la domanda mia è: come fai tu a non essere a conoscenza di questa canzone? Ma, che è un classico di Rita Pavone. Io cioè, non la conosco, Walter non la conosce, Michele non la conosce, cioè vedi. Svizzera, la Svizzera. La Svizzera. Vabbè, un classico di Rita Pavone, come classico, se noi classico ascoltassimo regolarmente. Non sei un fan di Rita Pavone? No. Al di là della persona che insomma ha sempre manifestato simpatie sovraniste abbastanza bieche, soprattutto negli ultimi anni, per riguadagnarsi 5 minuti di popolarità. Vabbè, ma lì era pure la vecchiaia. Posso dire una cattiveria, ma vi è mai piaciuta la voce, il modo di cantare i brani di Rita Pavone? Secondo me assolutamente boh. No. Infatti, boh. E c'è anche una cosa brutta: ha anche interpretato un personaggio maschile, per cui bisogna condannarlo. Gian Burrasca. Vabbè, ma questo che c'entra, Marco? No, oggi non è accettabile questa cosa. Mi spiace, ma non è accettabile. Aspetta, Michele, però se entri così non te capiamo. Perché abbiamo tutta la musica. Per citare una frase storica dei Pearl Jam, dei Pearl Jam, che nel Pearl Jam del 2018 hanno detto uffa chi Rita Pavone. L'hanno detto veramente. È successo veramente. Vabbè, abbiamo capito. Sì, ma perché lei ha detto una stronzata a cui. Sì, ha detto qualcosa di. È un po' come quando Jim Carrey citò Alessandra Mussolini mettendogli la foto del nonno al contrario, che vinse proprio tutto. Okay. Ah, tra l'altro, minuti di recupero di cui uno è già andato. Tra l'altro, vi voglio raccontare una polemica che è scatenata 3 giorni fa quando sono stati presentati. È stato presentato il kit home delle nuove divise della Lazio, che voi sapete che è molto bella questa cosa, ve la racconto, vi farà assolutamente ridere, perché praticamente, vabbè, a parte tutto lo stile della maglietta che è molto celeste, può piacere o non piacere, poi c'è questo colletto e dietro praticamente c'è scritto SS Lazio a testa in giù. Oddio mio, perché? Perché non dovresti stare col colletto alzato come le polo? Non lo so, però questa cosa ha scatenato l'inferno, questa cosa ovviamente ha scatenato, vabbè, a parte oramai si è scatenato l'inferno. A parte il fatto, regà, che nel 2024 le magliette da calcio col colletto non si possono vedere in generale, il colletto ne ha maglietta ma da calcio, ma magari neanche ce l'ha il colletto, perché è una cosa a V, però c'è sta scritto SS Lazio però a testa in giù. Come l'hanno spiegata? Non lo so. E poi dopo c'era scritta in giapponese unica fede unica passione, che vabbè non si sa, è gente incazzatissima questa roba, cioè proprio perché pare che sia un'offesa al fascismo. Immagino per questo sì. È finita ragazzi. Oh. Bravi. Allora, adesso voglio solo guardare, giustamente festeggiano ridendo con lo sguardo l'italico avversario. Sono curioso di guardare, la fate vedere un attimo la faccia di Spalletti, se la inquadreranno mai. No, perché lui già è andato via. Sì, lui sta a Forte dei Marmi alla capannina già. O a quella di Monterotondo. Ragazzi, alla fine ha aperto, ce l'ha fatta. Poi magari Marco cosa? Ci dirà qualcosa. La capannina, quella all'angolo del tizio che voleva affittare l'appartamento da te. l'ex Nook, l'ex... Ah, sì, sì, sì. Vabbè, poi ne parliamo, questa è una cosa poco radiofonica. Michela fa rumori così a caso, proprio inutilmente. Se ne fotte le Michela. Ma scusa, che stai facendo? Libera le bestie. Ma aspetta un attimo, no? Cioè, no, adesso, devi fare adesso. È incredibile. Poi dice, no, perché tu mi biastimi sempre? Insomma, vabbè. Comunque, ragazzi, grazie di essere stati con noi. Ma mi pare. Bellissimo europeo, veramente. Cosa ci lascerà? Che ricordi ci lascerà dentro questo europeo? Niente, ma va bene così. La classica ceppa de cazzo. Esatto. Che disegneremo, ovviamente. Anzi, domani compreremo tutte delle maglie originali dell'Italia. E dietro invece il numero ci disegneremo una bella ceppa de cazzo. Io ringrazio e saluto, rimandandovi ovviamente al 15 luglio, dove poi insomma seguiremo la finalissima, giusto così, per Gogliardi. Davanti a delle birre. Ringrazio e saluto Walter Sbano. Ciao, grazie di essere stato con noi. È stato divertente fare questa cosa che è una tradizione per Runtime Radio e ancora prima da Italian Podcast Network. E grazie anche a Marco Gualdi. Ciao a tutti. La vita è come un mozzico, come mozzico. Una banana, bisogna sempre prendere, comprarne due. Hai ragione. Ringraziamo in redazione e elementi di disturbo anche Svetlana, Michela De Paola. E ci sentiamo il 15 luglio. E poi ai mondiali, vediamo mondiali. Salutiamo anche tutti quelli che oggi erano tantissimi in chat. Nel frattempo è arrivato anche Pier G, quindi in ordine cronologico inverso è sparso Pier G, Ruggero, Shuren, Rose, Black Eyed, e scorro ancora Mister Zero, che purtroppo stava lavorando, Spalletti, Andrew ha interagito, quindi magari ci stava ascoltando anche il nostro Capitan Kitaro. Insomma, c'era il pubblico delle grandissime occasioni, perciò grazie. E se ho dimenticato qualcuno, chiedo scusa. Ciao. Metti Spalletti. Addirittura lo mette Spalletti? Vogliamo sentire che dice. Aspettate, mettiamo Spalletti. Ci siamo rimasti nella loro metà campo, però siamo stati poco incisivi. Così non riesco. Ha fatto la differenza è il ritmo. Lo avevamo un ritmo troppo inferiore a loro nel primo tempo. Invece nel secondo. Al di là di quello che è stata la caratteristica proprio di ritmo di squadra, anche nelle individualità c'era un passo differente, passo per pado, nelle coppie, nelle situazioni individuali, ma anche come qualità, come testa, come atteggiamento, non è l'Italia vuole lei. No, voi dice no, ma è faccia da cazzo. Ritmo, la freschezza fa sempre la differenza. L'altra volta io pensavo magari a fargli recuperare un po' di più, che avessi dovuto cambiare un po' più di giocatori. Stasera ho cambiato i giocatori e li avevo fatti recuperare, per cui probabilmente in questo momento qui, per troppi condizionamenti, non siamo in grado di fare quali condizioni? Ecco, anche volendo, quindi è colpa dell'altri, sempre colpa dell'altri. In vista del prossimo mondiale la strada da fare è lunghissima, tante cose devono cambiare. Anche allenatore, anche giocatori, che poi si farà i giocatori indagativi. Però è chiaro che Oriundi. Ci vuole più ritmo dentro la squadra, ci vuole più gamba, ci vuole più ritmo. Vabbè, ragazzi, vi beccate la canzone di Marco con la quale chiudiamo come sempre tutte quante. La sentite per la penultima volta, è incredibile, che emozione. Ciao a tutti, ciao. Siamo stati. Sul balcone spero